proficuo. Dopo devo dire una parola di ringraziamento generale ai relatori che si sono dati disponibili per questo nostro incontro, certo un po' più difficile mi pareva da combinare anche per le disponibilità delle persone che altre volte. In particolare devo ringraziare il relatore di questa sera, il padre Wilieker, che 15 giorni fa era ancora in clinica per un'operazione e che insomma un po' per la grazia di Stato, un po' per la taumaturgia dei chirurghi, insomma vedetelo qui. Vivo e vegeto e pronto all'intervento di oggi che ha elaborato questi giorni e gli siamo doppiamente grati di questo. Ecco, detto questo, io vorrei pregare Don Luigi Sartori di dire due parole di inquadratura della tematica, vero, di cui lui è stato in certo qual modo colui che l'ha proposta e anche che ci ha assistiti come coordinatore nel reperimento e dei relatori e nella articolazione della tematica e così via. Ne abbiamo parlato ampiamente anche in estate quando ci siamo trovati alla Mendola e abbiamo avuto la fortuna di incontrarci personalmente col professor Chiavacci, che in quell'occasione ha ascoltato e accettato il nostro invito di essere presente e che saluto con particolare cordialità anche perché è arrivato in questo momento. Ecco, prego dunque Monsignor Sartori di dirci due parole così di introduzione, dopodiché il padre Wilieker ha già fin d'ora la parola. Siccome il nostro tema riguarda non la pace in se stessa, ma la sua possibilità, dato il peccato originale, dico subito l'ambientazione teologica, devo riferirmi al peccato originale anzitutto perché da esso derivano anche le malattie, i dolori e la morte. Allora non c'era soltanto il nostro padre Ecker che ha avuto la sua malattia, ma c'è stato anche il nostro carissimo presidente, il nostro munificentissimo Monsignor Roger, che è stato travagliato, bersagliato, ha lottato e ha vinto. E allora facciamo pace con tutti i nemici del nostro convegno e ringraziamo lui. Ma come ha detto lui, asciutto il Trentino, asciutto di noi, facciamo subito il nostro lavoro. Dico soltanto una brevissima, direi, configurazione del nostro tema. Richiamo anzitutto però qualche vuoto e qualche pieno. Doveva venire il professor Casavola per fare la terza relazione. Invece abbiamo tra noi Don Paolo Miccoli, professore alla Urbaniana, che dirige anche l'Istituto per l'Ateismo. Non è un ateo, è un credente che dirige l'Istituto per l'Ateismo, il quale però ci porterà domani anche un amico e molto competente, professor Negri di Roma, il quale ci aiuterà anche a entrare ad allargare la problematica. Detto questo, ecco, io preciso il nostro taglio, non è un aggiornamento qualsiasi né un dibattito così immediatamente produttivo per prendere posizione ecclesiale su questo e su quel fronte, è veramente un lavoro di riflessione. Il più possibile sforziamoci di restare nella precisione del tema. Il tema non è la pace in tutti i suoi sviluppi, ma la possibilità della pace tenuto conto del peccato originale. Anche il primo numero, il primo articolo di questo numero di concilio, un peccato, ma si tratta di configurare la natura dell'uomo in dimensioni che potrebbero apparire impossibili al tema della pace. È vero che lui cerca di dimostrare come, diremo, forse alcune correnti non interpretano come naturale l'istinto di aggressione, ma culturale, è il dibattito comune, generale oggi, che cosa è naturale, che cosa è culturale. Alcuni elementi introducono invece la distinzione tra naturale e culturale per mostrare che anche l'aggressività potrebbe anche essere interpretata come un fatto derivato, per cui la lotta per la pace e contro gli istinti di guerra avrebbe una sua legittimità anche come traguardo reale, non un'utopia veramente irrealizzata. Comunque il nostro tema è questo. Allora chiederemo ai quattro relatori un'introduzione proprio su alcuni punti. La Bibbia, quando introduce il tema della pace, lo fa con, direi, come un sospiro soltanto, che sarà realizzabile solo nell'aldilà, o ritiene che nonostante l'uomo, la sua meschinità e i suoi conflitti, la sua situazione, può avere il valore di un itinerario, di un traguardo anche storico, domani sentiremo se il Magistero, prima relazione Mattai, ha tenuto conto nel suo insegnamento sulla pace di questo elemento, ci preme questo elemento, così il professor Piccoli indagherà nella cultura moderna, nei filoni culturali, filosofici, politici moderni, se questo elemento è tenuto presente come remora, come stimolo al superamento, eccetera. E poi avremo, ringraziamo soprattutto il professor Chiavacci, perché è vero solo in parte che la programmazione di questo convegno è frutto dell'opera di Egger e mia, e praticamente ci siamo incontrati alla Mendola e abbiamo con lui, è lui praticamente il gestore, come in altri campi della Chiesa italiana, della riflessione morale internazionale, un leader che ha in mano questo discorso, quindi è tenuto per ultimo perché praticamente in lui si dovrà ricapitolare un po' tutto quello che noi faremo di riflessione. Ringraziamo la sua presenza e quella degli altri. E adesso umiliato l'ultimo, umiliamo il primo dicendogli: prendi la parola in nome della parola di Dio. Ecco. Ho scelto come tema logica della violenza e logica del regno di Dio. Questo anche per non sbagliare tema, se no Monsignor Sartori avrà anche uno spirito di pace. Mi pare il primo a parlare è il biblista, e mi pare in ogni discussione sulla pace che si fa in questo tempo una parte spetta anche alla parola di Dio, non solo per chi crede, ma anche per chi non crede, perché è sempre il patrimonio cristiano e biblico, soprattutto il discorso della montagna fa parte di tutte le discussioni attuali sulla pace. Il lavoro del biblista per una parte è facile, per l'altra difficile. È abbastanza facile perché posso parlare da primo. Poi posso fare anche una lettura storica, pur con le difficoltà che conoscete, ma non so, il biblista non è costretto ad entrare nella complessità dei problemi di una lettura adeguata dei segni del tempo. Penso anche, per esempio, l'ultimo, il documento dei vescovi americani, per la parte biblica non abbiano avute tante difficoltà, almeno a leggere i diversi schemi, pare erano in tutta pace sui problemi biblici, mentre poi quando si entra nella complessità dei problemi di oggi, anche bisogna avere competenza militare, allora è difficile. D'altra parte il lavoro dell'esegeta è abbastanza difficile perché dovrebbe presentare un fondamento biblico che regga, cioè anche un fondamento che possa offrire delle prospettive capaci di fare la nostra problematica in una luce nuova. Anche per questo occorrerebbe una consapevolezza della nostra situazione ermeneutica e nello stesso tempo occorre restare fedele al testo. Mi pare questa parola pace è un po' una specie di riassunto delle speranze e delle ansie dell'uomo di oggi. È uno di quei vocaboli in cui si riassumono le speranze. Non è solo una parola chiave per una lettura della problematica di oggi, ma mi pare anche è una parola chiave per il messaggio di Gesù. Per il fatto statistico, nel Nuovo Testamento usato 92 volte, e si trova in tutti gli scritti del Nuovo Testamento ad eccezione della prima di Giovanni. Anche questo abbastanza interessante. Poi però un altro fatto, ma anche interessante, che il vocabolo quasi sempre è una specie di termine tecnico, cioè non viene spiegato, eccetto forse nella lettera agli Efesini, lì almeno si vede un po' cosa voglia dire pace, cioè pacificazione tra i due verso una nuova unità. Ma in genere anche tante volte si trova nelle formule di saluto, sia nelle formule di saluto e di commiato da parte di Gesù o anche nelle lettere di San Paolo. Adesso per il convegno già Monsignor Sartori ha formulato le domande: come e perché la pace in un mondo di peccato? E a me è stato affidato il compito di presentare una risposta a queste domande da parte dell'esegesi. E così ho tenuto conto di queste domande. La Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento, che è il mio campo, nel proporre l'ideale di pace messianica, come e quando tiene conto della fatica umana per un cammino realistico, quanto permette o concede alla fragilità umana, propone utopie realizzabili o soltanto ideali escatologici. Adesso per uno sguardo panoramico sul tema rimando ai dizionari teologici e ai lavori monografici. Un'ultima serie si trova nell'articolo di Schnackenburg della Biblische Zeitschrift. Sono quegli elenchi, ormai mi sono accorti, gli autori citati più o meno tornano. Così anch'io ho fatto su quel foglio che vi ho dato, ho fatto anche un elenco in cui in parte rimando alle mie bibliografie generali. Per i testi da presentare mi soffermo su due gruppi di testi, cioè sul discorso della montagna, soprattutto le antitesi, il che è ovvio, e anche sul discorso della montagna, perché sono testi che trattano expressis verbis la tematica della pace. Per quanto riguarda il metodo seguito in questa relazione, è chiaro che mi attengo ai risultati acquisiti dell'esegesi storico-critica. Poi per la bibliografia spero che non mi siano sfuggiti troppi articoli anche dei qui presenti, spero almeno, ma poi nella discussione possiamo anche, come dire, portare tutti i contributi e raccoglierli. Casomai mi scuso per omissioni non volontarie. Per gli amici non esegeti la relazione potrebbe essere in parte un'informazione su alcune piste che l'esegesi in questo tempo segue studiando questi testi. Basta pensare all'articolo di Concilio, ma anche lì si vedono alcune piste dell'esegesi di oggi. Poi, seguendo il tema, ho cercato di individuare nei testi quei tratti semantici ai quali fa riferimento il titolo del convegno. Cioè ho letto i due testi in questa luce, cosa dicono della pace, il che è ovvio, tutti lo leggono così, ma poi ho cercato anche di leggere i testi attentamente, che cosa dicono del mondo del peccato, della violenza, qual è la contrapposizione tra pace e mondo del peccato. Poi, naturalmente, ci sono alcune teorie, adesso dappertutto, no? C'è la cosiddetta la teoria dell'agire, non so, Handlungstheorie, che tratta del problema come cambiare delle situazioni, e così ho tratto qualche cosa di utile da quello lì. Poi anche dalla linguistica, c'è un ramo della linguistica che si interessa molto. Cosa speriamo quando parliamo, che cosa vogliamo ottenere? E così ho letto anche questi testi in questa luce, domandandomi: Gesù, cosa vuole ottenere pronunciando queste parole? E poi mi pare, anche se ho trattato molto brevemente questo aspetto, la storia degli effetti del discorso della montagna e del discorso della missione. Mi pare dalla storia di alcuni movimenti della Chiesa si possa ricavare molta utilità anche per la lettura dei testi biblici. Questo solo come introduzione. L'ho dimenticato lì, così spero di non essere troppo lungo almeno per la conferenza, per il lì, diciamo un tre quarti d'ora, 50 minuti dopo questa introduzione. Dopo questa introduzione, troppo? No. La prima parte, come vedete anche sui fogli, ha come tema operatori di pace, che è un tema, il titolo preso dal discorso della montagna, e il testo chiave su come costruire la pace, è ovvio, è la quinta e la sesta antitesi sulla non violenza e la carità verso i nemici. Per comodità ho anche fatto copiare sul retro, no, questi i versetti che sono la base di questo studio. Poi allargo un po' l'orizzonte a tutte le antitesi per trovare qualche conclusione. Sulle due prime, sulla quinta e sesta antitesi, mi pare che il titolo è ovvio: non violenza e carità verso il prossimo. Solo qualche ricordo sulla tradizione e la redazione di questo testo, mi pare almeno uno sguardo panoramico sulla tradizione e redazione possa essere utile per una giusta lettura storica. Il problema sarebbe quello: Gesù parla del mondo politico o parla piuttosto del mondo privato? Questo per una giusta lettura storica. E poi mi pare anche uno sguardo su tradizione e redazione è utile come base per le riletture fatte già da Matteo, ma poi anche nel corso della storia. Ormai in campo esegetico, così in genere, per la quinta antitesi, cioè sulla non violenza, versetti 5, 38 a 42, viene data una ricostruzione di questo tipo. All'inizio della tradizione c'erano i versetti 39b, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Questi versetti probabilmente all'inizio della tradizione. È interessante notare che i due esempi portati da Gesù sono esempi paradossali, però riflettono l'esperienza, per così dire, di vita privata. E l'esperienza di ognuno, non ci entra ancora tutto il problema della politica o anche di una non violenza politica riguardo al mondo romano. A questi due versetti 39b e 40 è stato aggiunto, probabilmente già nella fonte Q, il versetto 42, cioè: da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Anche questo è un ambiente di esperienza giornaliera, ma di per sé non tratta il problema della violenza. Poi, questo all'origine, poi già Matteo ha inserito, diciamo che sia stato Matteo, o qualche esegeta dirà è pre-mateano. Dunque è stato aggiunto il versetto 41, se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Questo versetto di per sé riguarda una situazione politica. Cioè è il lavoro forzato sì, a cui era costretta la popolazione della Palestina. Per questo riflette anche il mondo politico, che però riflette probabilmente il tempo, non so, dopo Gesù, al tempo anche della redazione di Matteo. Poi è stata la redazione di Matteo che ha rincarato ancora la dose, aggiungendo io vi dico di non opporvi al malvagio, e che ha anche fatto tutta la redazione con le antitesi. Questo lo presento su per giù come un riassunto delle opinioni che ormai sono, sì, che fanno un consenso dell'esegesi. La stessa cosa vale anche per la sesta antitesi, cioè anche lì un'evoluzione simile del testo. All'inizio saranno i versetti 44-45, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. E poi man mano a questo versetto sono stati aggiunti altri versetti e sono stati inseriti in una redazione più ampia, sia da parte di Matteo nelle antitesi o anche di Luca, che inquadra tutti questi versetti nel problema della carità del prossimo. Questo solo come un ricordo del consenso. Su per giù qualche versetto o qualche mezzo versetto potrebbe essere attribuito anche, non so, a qualche, insomma. Per la interpretazione che ci interessa adesso in questo tema, Uno, l'interpretazione di questo manifesto della non violenza. È Leonardi che dice che lo chiama manifesto della non violenza, mi pare abbastanza felice. Primo, questi versetti presentano il mondo della violenza e anche la logica della violenza. Cioè l'agire non violento e caritevole che Gesù qui dice di seguire viene presentato da Gesù sullo sfondo di un mondo concreto di odio e di ingiustizia. E questo mondo in cui bisogna essere non violenti corrisponde all'esperienza giornaliera. Il primo caso, cioè quello della guancia, il colpo sulla guancia, è un fatto di violenza privata, però anche in questo caso Gesù fa vedere subito anche la logica della violenza, perché la violenza di chi percuote la guancia dell'altro provoca, con una certa logica, la violenza di chi è aggredito. Questo porta a una nuova escalazione che provoca un'altra escalazione. Mi pare già in questo detto paradossale abbiamo è scoperta quella legge della violenza che è l'escalazione. Il secondo esempio, cioè il caso della tunica e del mantello, lì Gesù rimanda a quell'esperienza che tanti problemi tante volte non si risolvono così amichevolmente, ma tante volte solo il ricorso al potere sembra risolvere i casi. Anche questo ricorso al giudice mi pare è un ricorso al potere. Poi c'è il terzo esempio, anche se a livello redazionale, è l'esperienza di un popolo costretto ad obbedire a un potere straniero. Anche questo mi pare è un'illustrazione anche della Pax Romana, che è una Pax Romana fondata sul potere. E poi c'è anche il quarto esempio, l'esperienza che di fronte alle richieste altrui uno volge le spalle. Mi pare che si possa dire che la prassi che Gesù propone viene presentata di fronte a delle esperienze concrete, cioè Gesù tiene conto del mondo dell'odio e del peccato e anche svela in questi versetti questa coerenza interna e anche la logica della violenza. A questo mondo della violenza e del peccato Gesù oppone un mondo nuovo e questo mondo nuovo ha pure una propria logica. Cioè il nuovo mondo è regolato dalla logica dell'agire di Dio. Se il Padre fa sorgere il sole sopra i malvagi e i buoni, l'agire dell'uomo deve corrispondere a questo modello di Dio. E mi pare sono molti i testi del Nuovo Testamento che fanno vedere questa logica dell'agire di Dio che dovrebbe essere anche norma per l'agire dell'uomo. Numero 3. Come passare dal mondo della violenza e del peccato al mondo nuovo? Questa anche rientra nella nostra problematica come e perché la pace in un mondo di peccato? Come costruire? Il detto di Gesù di porgere anche l'altra guancia a chi ti percuote è un detto paradossale, questo è pacifico. Cioè bisogna agire, in quel caso concreto, in una maniera che l'altro non si aspetta. E il motivo per cui i discepoli devono agire così non sta in una rinuncia pura e semplice, ma in qualcosa di attivo. Tutti gli esegeti d'accordo che c'è qualcosa, una rinuncia o un atteggiamento attivo. Sono del parere di quegli esegeti che dicono che Gesù ha in vista piuttosto prima la logica di ogni giorno, per cui uno attaccato attacca a sua volta, cioè reagisce con gli stessi mezzi di forza e di violenza. E Gesù dice in un detto paradossale, a questa logica bisogna opporre un'altra logica, cioè per vincere la violenza con la sua coerenza interna, cioè l'escalazione, bisogna superare quel pericolo di escalazione, bisogna uscire dal cerchio della violenza. E questa soluzione di chi non reagisce a prima vista può sembrare poco logica, però serve a rompere questa logica della violenza, in quanto permette un primo momento di non violenza, e conseguentemente un primo momento di riflessione anche per chi attacca. E per questo direi Gesù, con questo detto, invita a una non violenza dimostrativa, che si mostra non violenza per permettere un momento di riflessione. Mi è stato molto, come dire, stimolante un libro di Václavic, che di per sé è uno psicologo, che ha scritto un libro Soluzioni. E lì dice tante volte con la logica per risolvere certi problemi, la logica, quella limpida, non riesce a trovare una soluzione. Solo se poi uno trova una nuova logica, allora può superare certi problemi. E così anche mi pare qui Gesù dica, con la logica della violenza non è possibile superare la logica della violenza. Che poi una non violenza dimostrativa di questo tipo, cioè mi dimostro non violento, inerme, come mezzo politico, che questa non violenza fosse conosciuta ai tempi di Gesù, è provato anche da racconti di Giuseppe Flavio. Adesso insistono Tyson e altri, insistono molto su questo, che la non violenza come mezzo politico era conosciuta ai tempi di Gesù. E mi pare che si debba dare una lettura, una spiegazione di questo tipo. Dunque, questo come agire per far sorgere un mondo nuovo, bisogna agire con questa logica nuova, con una non violenza dimostrativa, che è sempre anche un appello alla fantasia dell'uomo, cioè dovrebbe trovare qualcosa che dimostri la non violenza. Quarto, anche in questi versetti Gesù cerca di coinvolgere chi lo ascolta. Il problema è come convincere gli altri anche ad essere operatori di pace. E mi pare in questi detti, 38 a 48, Gesù si serve, per così dire, di una certa strategia della parola, cioè usa certi mezzi di linguaggio per convincere chi lo ascolta. Per esempio, il primo esempio, il colpo alla guancia e la lite per il mantello, fanno parte dell'esperienza di ognuno. E così Gesù fa appello a quell'esperienza di ogni giorno. C'è anche nel versetto, per esempio nel versetto 45, il padre fa sorgere il sole sopra i malvagi, c'è un appello all'esperienza di ogni giorno. Cioè chi ascolta deve dirsi d'accordo con quanto dice Gesù. E così Gesù, in un certo senso, con un parole formulate in questa maniera, costringe chi lo ascolta almeno a un primo passo. Mi pare quest'arte del linguaggio è stata studiata molto riguardo le parabole. Gli ultimi studi di Weber, ma anche già prima dell'americano Fumo, insistono molto su questa capacità di linguaggio da parte di Gesù. Mi pare una cosa simile si debba fare anche riguardo alle indicazioni etiche, perché anche lì c'è una grande arte di linguaggio. Gesù man mano riesce a coinvolgere l'altro in questo tentativo di ricostruire la pace. C'è anche poi l'uso del linguaggio paradossale, cioè sono dei detti che a prima vista vanno contro il buon senso, porgili anche l'altra guancia e va contro il buon senso, però come detto paradossale è un invito a pensare e direi anche un invito a ragionare, cioè mettersi sulla strada giusta del pensiero giusto. Poi a questa strategia della parola servono anche certe provocazioni. Se Gesù dice questo lo fanno anche i pagani o i pubblicani, allora questa è una provocazione, perché chi vuole essere pubblicano o pagano? Mi pare da queste osservazioni su come Gesù parla e come presenta anche il caso specifico, risulta che la parola stessa di Gesù è formulata in maniera tale da muovere chi la ascolta verso la pace. Dopo questa, come dire, interpretazione anche sommaria di queste due antitesi, vorrei allargare un po' l'orizzonte a tutte le antitesi e far vedere come nelle antitesi venga presentata da una parte la realtà umana così com'è e dall'altra parte viene opposta a questa realtà umana il mondo del regno con le sue esigenze e la sua logica. Questo non vale solo per le antitesi, ma lì è molto chiaro. Il modo di parlare di Gesù è caratterizzato dal fatto che Gesù parte dalla situazione concreta dei suoi interlocutori. E questo non solo parte tenendo conto di questa situazione, ma la fa presente anche nelle sue parole. In molte parabole parla della situazione dell'uomo, il punto di partenza. E cioè Gesù presenta sia nelle parabole ma anche nelle antitesi, in un modo o l'altro Gesù dà una descrizione della condizione dell'uomo. E soprattutto nelle antitesi Gesù descrive la situazione dell'uomo come segnata da conflitti, discordie e anche mancanza di una comunicazione riuscita. Basta pensare alle situazioni presupposte nelle antitesi. Cioè le antitesi presuppongono, la prima, i conflitti con i fratelli, vari conflitti. Seconda antitesi, desideri e conflitti all'interno stesso dell'uomo. Poi nella terza antitesi, conflitti tra sposati, da risolvere, no? In modo migliore, dicevano, con il divorzio. Questa è la situazione presupposta. Poi nella quarta antitesi, sul giuramento, la situazione è quella di una mancanza di credibilità e chi manca di quella credibilità allora deve rifugiarsi al giuramento. La quinta e la sesta, lì è ovvio, è una situazione di potere, di violenza e di inimicizia. Ecco, con qualche tocco Gesù fa vedere anche la logica, le radici di questa violenza. Questo solo per una lettura che uno può fare poi. Per esteso. A questa realtà umana, che è dunque ben presente nelle antitesi, Gesù oppone le esigenze e la logica del regno di Dio. Cioè in tutte le antitesi Gesù oppone alla situazione di conflitto, di violenza, un suo progetto di vita. E direi Gesù propone nelle antitesi non il regno di Dio realizzato pienamente, non è un ideale escatologico alla fine dei tempi, ma è un progetto di vita da realizzare in questo mondo. Anche questa era una delle domande di partenza: è un ideale escatologico o è piuttosto un mondo da realizzare in questo mondo? E direi le antitesi presentano questo, un mondo nuovo, però un mondo nuovo da cominciare nella nostra esperienza. Anche lì uno sguardo rapido alle antitesi ci fa vedere questo mondo nuovo, cioè ci presenta un mondo riconciliato, un mondo fraterno nella prima antitesi, ci presenta l'uomo tutto sanato anche nelle sue radici del cuore, poi presenta unione tra uomo e donna riuscita. Nella quarta antitesi il giuramento, direi, presenta un mondo in cui la trascendenza divina è riconosciuta. Direi piuttosto questa interpretazione del divieto del giuramento, perché bisogna riconoscere la trascendenza divina, non tanto. Sì, certo che questo sarà utile anche all'uomo, no? Ma dico, lo scopo di Gesù è quello che la trascendenza divina venga riconosciuta. Poi nella quinta e nella sesta c'è il mondo nuovo in cui il cerchio della violenza è spezzato e in cui è riconosciuta una fratellanza universale. E mi pare utile dire che anche per questo mondo nuovo vediamo che Gesù mostra anche un po' la logica e le esigenze del regno. È per il cristiano, per il discepolo, è logico agire in questo modo nuovo perché anche il Padre agisce in un certo senso. Quello, come ho già detto, mi pare bisogna insistere su questo: il futuro nuovo che Gesù presenta non è il futuro della escatologia pienamente realizzata, ma è un futuro da instaurare su questa terra. E queste indicazioni di Gesù valgono per il mondo in cui c'è ancora l'odio e l'inimicizia. Certo, questo sulla logica del regno di Dio adesso non lo tratto di più, in parte lo posso supporre, ma comunque si vede in tutta la di tutto il Nuovo Testamento che c'è questa logica e questa coerenza interna del regno di Dio. C'è un regno di Dio che si manifesta anche nell'agire di Gesù, nelle sue parole, con tutta una logica. Per il Daum, direi dunque in queste antitesi vengono presentati questi due mondi, il mondo del peccato e il mondo della pace. E queste antitesi insistono su un cambiamento da una situazione all'altra. E per questo mi pare anche nelle antitesi non viene nominato espressamente il vocabolo di pace, però nel contesto del capitolo 5, della beatitudine, beati pacifici, mi pare almeno in questo contesto delle antitesi, pace vuol dire piuttosto, o almeno questo tratto semantico, vuol dire superamento dei conflitti. Questo da una lettura di questi testi. E mi pare anche la forza e le spinte per il rinnovamento della Chiesa che sono scaturite nel corso della storia dal discorso della montagna derivano dal fatto che il discorso della montagna fa vedere chiaramente sia il punto di partenza di ogni agire umano, cioè il mondo del peccato, della sopraffazione con la sua logica, ma fanno vedere anche un punto di arrivo, una pace che mette fine ai conflitti umani, che è anticipazione del regno e che è anche una pace segnata dalla logica del regno. Queste le riflessioni su realtà umane e esigenze del regno. Numero 3 del primo punto, le indicazioni per un itinerario di pace. Nelle antitesi non troviamo solo la contrapposizione tra mondo del peccato e mondo della pace come superamento di conflitto, ma anche delle indicazioni su come superare la violenza. Per questa riflessione mi baso in parte sugli studi di René Girard, Raymond Schwager e Lofink. Ho messo qualche titolo anche nella bibliografia. Ultimamente è uscito un volume del padre Lofink nella bibliografia che è all'interno del foglio. Sulla violenza c'è tutta una bibliografia di Norbert Lofink, Gewalt und Gewaltlosigkeit im Alten Testament. È stata una riunione degli esegeti dell'Antico Testamento l'anno scorso, e lì il tema era violenza e non violenza, e lì il padre Lofink, Norbert, ha fatto una bibliografia in parte completa sul tema. Poi anche c'è la bibliografia, le note bibliografiche di Giovanni Leonardi nel Studia Paterino. Questo per la bibliografia. Quello che mi pare utile anche per una lettura delle antitesi, René Girard, e poi anche a seguire Raymond Schwager e Lofink, fanno un'analisi della violenza anche per quanto riguarda il campo religioso. E in questo contesto ci interessa soprattutto quanto questi autori dicono riguardo la logica della violenza. Cioè Girard soprattutto dice: la violenza ha alcuni connotati senza i quali non può sussistere. Per esempio, la violenza per poter durare e conservare i suoi meccanismi deve essere nascosta. Non deve farsi notare come tale, perché una volta smascherata è già in pericolo di perdere. E almeno anche Amnesty International dice la difficoltà maggiore per l'opera di pace è che la gente non vuol saperne di quelle cose lì. Non vogliono vedere, non so, documentazioni sulle torture, eccetera. Sono cose lontane e così via. E questo anche perché questa anche la violenza nascosta può operare. Poi la violenza, anche questa è esperienza comune, ha in sé la tendenza all'escalazione. Si dice escalazione? Escalation. Si capisce. Si dice escalation un po', dunque escalation. All'inglese. All'inglese, sì. Come si direbbe in italiano? Crescendo. crescendo. Sì, insomma, la violenza ha questa tendenza alla crescita. Poi dice anche la violenza è un pericolo permanente per l'uomo, in quanto l'uomo per la mimesis, cioè la volontà di diventare quale l'altro, è portato alla rivalità e al conflitto. Mi pare questo riassunto, anche brevissimo, della posizione di Girard e suoi seguaci, ci può offrire una guida di lettura per le antitesi, in quanto le antitesi ci fanno vedere alcune caratteristiche dell'agire per la pace. Cioè chi vuole lavorare per la pace deve smascherare la violenza e smascherare anche la logica della violenza. Poi deve presentare un'utopia della pace e indicare come costruire la pace e poi anche deve convincere gli ascoltatori a farsi promotori della pace. Adesso spero almeno di non forzare troppo i testi delle antitesi se applico questa guida di lettura alle antitesi. E mi pare possiamo trovare nelle antitesi queste caratteristiche enunciate. Cioè, primo, le antitesi smascherano il mondo del peccato. Cioè, le antitesi presentano il mondo del peccato, della violenza, ma nello stesso tempo lo smascherano come ingiusto e violento e come totalmente insufficiente. Questo anche gli articoli di Padre Lofin che insistono molto sul fatto, anche se l'Antico Testamento tratta molto della violenza, Schwag ha raccontato, parlano 600 volte del Dio violento e della sua collera, eccetera, ma già l'Antico Testamento è su quella via per smascherare la violenza. Per questo anche Lofink ha dato il nome a un articolo di Entlarvung der Gewalt. E questo filo di smascherare la violenza viene continuato nel Nuovo Testamento. Basta vedere le antitesi, per esempio, l'amarsi tra simili è una cosa da pubblicani e pagani, cioè una cosa che non basta. Poi anche la logica dell'escalation viene smascherata, anche se con un esempio molto breve e preciso, cioè il colpo sulla guancia. Con un tocco rapido Gesù riesce a descrivere quale sia la logica della violenza. Poi anche, per esempio, il giuramento viene smascherato come un non prendere sul serio la trascendenza di Dio. O anche il summum ius del divorzio viene presentato come summa injuria. O anche vengono svelate le radici profonde dell'odio e dell'adulterio. Questo è già un primo passo per superare la violenza, smascherare e far vedere la logica. Poi le antitesi presentano pure un modello e un'utopia della pace da raggiungere, cioè un agire dell'uomo simile alla maniera di agire di Dio stesso, e cioè il modello dell'agire da figli di Dio. E anche Girard, dunque che di per sé non è teologo, lui dice la rivelazione di un Dio del tutto non violento, mette fine poi al ciclo della violenza. Non so se discuteremo poi su una frase di questo tipo. La rivelazione di un Dio del tutto non violento. Da questo mi pare sarebbe anche da rileggere tutta la vita e l'insegnamento di Gesù, questa non violenza del Dio di Gesù. Poi le antitesi terzo presentano anche delle indicazioni su come costruire la pace. Per esempio dicono dove cominciare, cioè per costruire la pace bisogna cominciare nel cuore, prima e seconda antitesi. Bisogna rispettare la trascendenza divina, che è già un buon passo per un mondo nuovo e per la pace, quarta antitesi. Poi bisogna superare i pregiudizi di gruppo, sesta antitesi, eccetera. Poi la quarta caratteristica che troviamo nelle antitesi e che fa parte di un'azione promotrice di pace è lo sforzo di convincere chi ascolta a farsi promotore di pace. L'ho spiegato già nella spiegazione della quinta e sesta antitesi, però mi pare molto caratteristica anche per il nostro tema. Cioè Gesù impiega tutti i mezzi che il linguaggio li mette a disposizione per convincere l'altro. E così la parola, che è dotata di un dinamismo, può anche diventare fattore dinamico di pace. Cioè nel senso vero della parola, può diventare fattore, cioè qualcosa che aiuta a fare la pace. Ho già parlato di questi mezzi del linguaggio di cui Gesù si serve, cioè il paradosso, e un invito a pensare e a ragionare, poi anche l'appello all'esperienza come un'istanza inconfutabile, anche la provocazione che mette a nudo gli antagonismi. Mi pare questo servirsi del linguaggio da parte di Gesù, d'altra parte, ci fa notare anche la consapevolezza quanto sia difficile costruire la pace. E così, data questa difficoltà, è necessario convincere con tutti i mezzi del linguaggio. Per i destinatari di questo messaggio delle antitesi, soprattutto 5 e 6, ultimamente, almeno in campo esegetico, ma anche ai lettori di Concilium, no? Ormai è nota la posizione di Gerd Thyssen. Lui dice che il movimento di Gesù era composto di due gruppi, il gruppo ristretto dei carismatici itineranti, con tutto un modo di vivere, in povertà, annunciatori di pace, eccetera, e poi un gruppo di simpatizzanti che vivevano nelle loro famiglie, però erano amici di Gesù. In parte è una, come dire, opposizione, cioè Zani, dove lui casomai, così adesso non dico delle cose avanzate. E così anche l'instance nell'articolo di Concilium segue un po' questo filo, però mi pare anche continuando troppo Thyssen, perché Thyssen, anche se ha scritto un articolo sull'antitesi della non violenza, lui non va fino a questo punto. Parla un po', sono il movimento di questi carismatici itineranti, ma poi non va fino a dire che il discorso della montagna sia rivolto proprio a questo gruppo ristretto. Mi pare questo sia un po' esagerato, anche se adesso Linskens mi pare che esageri un po' questa posizione, perché mi pare, se vediamo il contenuto di questi comandamenti delle antitesi, sono degli esempi o degli atteggiamenti che non sono specifici per un gruppo di carismatici itineranti, ma mi pare piuttosto le antitesi sono date per un gruppo, possiamo dire, per così dire, di simpatizzanti che però hanno le loro famiglie, basta pensare al matrimonio, per un gruppo di carismatici detti di questo tipo non hanno tanto senso, o anche il colpo alla guancia, il processo per il mantello, dare e prestare, mi pare non sono specifici per un gruppo di carismatici itineranti. Per questo direi il gruppo a cui si rivolge Gesù è il gruppo dei suoi amici, anche se stanno nei villaggi e nelle famiglie. Anche se mi pare giusto quanto dice sempre Thyssen e anche altri, per questo gruppo che segue questi detti di Gesù c'è sempre il pericolo di una certa marginalizzazione, cioè man mano vengono spinti fino a un margine della società. Perché chi segue queste indicazioni di Gesù non può affermarsi con successo in mezzo a una società. E questo mi pare anche la storia degli effetti di questi testi vanno in questa direzione. Ci sono le cosiddette chiese della pace, quaccheri, eccetera, eccetera, ma lì si vede chi segue la non violenza man mano finisce in margine alla società, come quelle chiese del Nord America. Per questo adesso non posso trattarlo per esteso, ma mi pare la storia di questi movimenti carismatici, a partire da San Francesco o anche le chiese della pace, può insegnare qualcosa. Ultimamente in campo esegetico, no? Fino a qualche tempo fa questi gruppi venivano presentati un po' gruppi un po' strani che cercavano di vivere, no, il discorso della montagna, mentre ultimamente si fa sempre più gli autori diventano più consapevoli, ormai dicono forse questi gruppi avevano ragione, non è il numero che dà la ragione, anche se la chiesa grande stile non per certe ragioni sociali eccetera non poteva seguire alla lettera le indicazioni delle antitesi, forse avevano ragione quelli lì. Per esempio lo dice anche Stuhlmacher, che poi è protestante. Questo solo perché mi pare il problema dei destinatari, io almeno ho accennato come penso la cosa, acquista sempre maggiore importanza anche negli ultimi studi dell'esegesi. A marzo era anche il convegno delle esegeti del Nuovo Testamento di lingua tedesca e lì man mano affiora sempre di più il problema chi è il gruppo o chi sono i destinatari del messaggio. Per le antitesi direi è il gruppo più esteso dei seguaci di Gesù, anche quelli che sono nelle famiglie, nei villaggi. Questo perché per il secondo testo propongo un altro gruppo come destinatario del messaggio. Questo basti sul primo numero operatori di pace, e qui anche il riassunto l'avete su questo, almeno su questo foglio. Un secondo testo, e lì sarò più breve, ha come titolo Dimostranti per la pace. Adesso non bisogna spiegarlo per evitare tutti i malintesi, eccetera, eccetera. Spiego poi cosa voglia dire Dimostranti per la pace. C'è un altro testo nel cui centro sta il tema della pace e di una prassi di pace, sono i discorsi della missione degli apostoli. Quattro testi sinottici. Anche lì, prima uno sguardo panoramico su tradizione e redazione, poi qualcosa sul metodo dell'annuncio della pace, sul gruppo degli inviati, poi una rapida conclusione. Per la tradizione e la redazione. Lì per il discorso della montagna siamo gli esegeti, sono felici anche loro a volte, no? E così in questo caso hanno perché il discorso della montagna si trova sia in Marco che anche nella fonte. Per questo di per sé dovrebbe essere più facile la ricostruzione. Ma anche, non direi quod capita tot sententia, c'è un certo consenso. Per i Vangeli, mi pare il discorso della montagna acquista un grande peso e diventa quasi un elemento strutturante per tutti e tre i Vangeli sinottici. In Marco, al capitolo 6, anche se questo discorso della missione in Marco è un po' frammentario, comunque fa parte delle strutture portanti del Vangelo, che sono sempre le pericope dei discepoli che strutturano la prima parte del Vangelo. Poi in Matteo abbiamo il capitolo 10, il grande discorso della missione, che fa parte anche della grande struttura dei grandi discorsi del Vangelo di Matteo. E in più Matteo amplia questo discorso mettendo l'accento sulla missione in un mondo di violenza e di persecuzione. Dunque anche già Matteo ha sentito questo problema, una missione di pace in un mondo di violenza e di odio. Per questo ha fatto le aggiunte della seconda parte del capitolo. Poi per Luca è ovvio, nel capitolo 9 e 10 presenta il discorso della missione come rivolto sia a Israele, nel capitolo 9, o anche ai popoli della terra. Per la forma tradizionale, per ricostruire il discorso, gli autori in genere danno la preferenza al discorso di Luca, anche se qualcuno ritiene un lavoro più intenso di redazione. Solo per avere sul foglio ho messo il testo di Luca. Per la ricostruzione del testo, adesso cito qui come un esempio Hoffman, ma sarebbero anche altri, il discorso della montagna consta di questi elementi. Il detto sulla messe che è molta, la messe che è molta, poi la parola sugli agnelli in mezzo ai lupi, il versetto 3, poi il divieto delle provvigioni per il viaggio, poi il divieto del saluto, poi l'annuncio della pace e il comportamento nelle case, i versetti 5 fino a 7 e 9, poi il gesto di maledizione. Dunque viene ricostruito un discorso abbastanza, come dire, fatto di un pezzo. Mi pare anche interessante che per gli elementi di questo discorso abbiamo una buona probabilità di risalire all'insegnamento del Gesù storico. Ci sono parecchie caratteristiche in questo testo che fanno pensare che si tratti di parole del Gesù storico. C'è una grande consapevolezza escatologica, poi c'è questo radicalismo della rinuncia richiesta agli inviati, poi c'è anche questa concretezza e il paradosso dell'agire, per esempio non salutate, e poi c'è anche la consapevolezza escatologica di poter offrire la pace. Mi pare lì anche il padre Alonso Schöckl diceva sempre in campo poetico: chi riesce a ridare forza nuova a una parola che ha perso il suo significato è un grande poeta. E mi pare questo anche il caso in questo campo. Gesù prende il saluto Shalom e ridà a questo saluto la sua forza. E lo fa un riassunto del suo messaggio, e in parte anche la pace assume, almeno nel contesto del discorso della missione, tutti i tratti sinonimi del regno. Questo discorso della missione poi può essere considerato una rilettura di Isaia 52, cioè i messaggeri della pace ormai portano la pace. Questo solo come un riassunto, un esempio di una ricostruzione di questo testo. Le indicazioni concrete di questo testo, cioè non portate, non sono solo un trattato di spiritualità. C'è in qualche autore, anche per esempio Laufen, che ho qui citato, di Doppio Valiferum and the Logo, quelle lui dice candidamente: all'inizio queste erano delle indicazioni di una certa spiritualità dei discepoli, poi man mano li hanno intesi come indicazioni concrete per l'agire. Mi pare che sia vero proprio l'inverso. Cioè all'inizio queste indicazioni di Gesù di non portare né borsa, né bisaccia, né sandali, né bastone, eccetera, erano delle, per così dire, delle condizioni di lavoro e riflettono il modo concreto di vivere e di agire degli inviati. Poi man mano, anche già si vede da Marco, eccetera, queste regole concrete sono state attualizzate, in parte anche rese più facili. E mi pare in questo campo darei ragione a Gerd Theissen, Soziologia der Jesusbewegung: per una lettura adeguata di questi testi bisogna tener conto di una sociologia del gruppo. C'è veramente il gruppo di itineranti carismatici senza proprietà, senza il sostegno di una grande famiglia del clan, che si fanno promotori della pace. Questo per, almeno per la ricostruzione e l'ambiente vitale di questo testo. Da questo, per la nostra problematica, mi pare il succo di questo discorso per noi, già all'inizio di questo discorso della missione presenta la situazione di violenza e di odio in cui i discepoli devono annunciare la pace. Cioè comincia: vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Cioè il discorso insiste su questa situazione di violenza. E questo insistere sulla violenza incontrata dagli inviati è del resto caratteristico di tutta la fonte Q e viene sviluppato anche da Matteo. E in più viene sviluppato anche nel discorso di addio in Giovanni. Questo solo per far vedere che gli autori sono veramente consapevoli di questa problematica e mettono anche accenti nuovi nel corso della redazione. E così in questo testo vediamo una contrapposizione tra i lupi da una parte e dall'altra parte gli inviati e i figli della pace. E in questo testo gli inviati non vengono presentati come operatori di pace, cioè come cambiare questa situazione di odio, ma vengono presentati piuttosto come portatori di pace. Cioè la pace è un dono che viene offerto a coloro che sono interessati alla pace. È quella pace che nel contesto di questo discorso è quasi sinonima al regno di Dio. E mi pare questa opposizione tra figli della pace, inviati della pace, e lupi è abbastanza netta, pur non presentando le tracce del pessimismo giovaneo. E anche il discorso della missione non dà indicazioni su come risolvere il problema dell'odio da parte dei lupi, dei nemici, o anche di come superare la loro inimicizia. Questo è nel discorso della montagna, ma in questo discorso direi proprio sono questi due mondi. Questo sarà poi un tema sviluppato da Giovanni. Come allora i portatori di pace devono comportarsi? Primo, devono rinunciare alle provviste di viaggio, anche a ciò che il mondo di allora riteneva lo strettamente necessario per un viaggio, sia i testi giudaici che quelli di Qumran. Erano ritenuti necessari avere un bastone, non solo per sostegno, ma anche contro le bestie, e le bestie feroci, poi i sandali, la bisaccia e un po' di spiccioli che serve sempre. Dunque Gesù richiede una rinuncia che è poi una completa mancanza di sicurezza per il viaggio. E anche rinunciando al possesso e anche alle armi non hanno con che difendersi. E mi pare questa rinuncia è una scelta molto coerente col contenuto dell'annuncio. Perché se vogliono annunciare il Vangelo ai poveri, lo devono fare da poveri. E se vogliono annunciare la pace, lo devono fare con un metodo di pace e di non violenza. E mi pare questa coerenza tra contenuto di pace e metodo di pace è uno dei punti fondamentali di questo discorso della missione, poi anche allo stesso tempo di estrema attualità per oggi. Questo mi pare una lettura a seguire Hoffman, e così Hoffman anche evita di cercare una spiegazione della rinuncia nel mondo contemporaneo giudaico, eccetera. Mi pare abbastanza chiaro che già dal contenuto di questo discorso si possa trarre questa spiegazione perché rinunciare alle armi e al possesso. Poi, in più, il comportamento degli inviati deve avere un carattere dimostrativo. Anche nel mondo circostante, i filosofi cinici, per esempio, avevano un vestito che li faceva vedere subito come filosofi cinici, cioè anche critici verso il tenore di vita del tempo. O anche Giovanni il Battista, che con il suo vestito già si faceva riconoscere un profeta, un po' alla maniera di Elia. E così anche gli inviati fanno dimostrazione del loro annuncio, e per questo anche la rinuncia ha una funzione di segno e anche una dimostrazione di programma. Quasi potremmo dire danno nell'occhio come uomini poveri e amanti della pace, e così anche il loro annuncio acquista valore. Per cui questo spiega anche il titolo, no? Che ho dato, sono dimostranti per la pace, non solo un agire di pace, di rinuncia alla violenza, ma anche un dimostrare che sono uomini della pace. Per il gruppo degli inviati, anche lì per trovare una risposta più precisa alla domanda che ci siamo posti in questo convegno, come e perché la pace, mi pare dobbiamo soffermarci su questo gruppo a cui Gesù affida l'annuncio della pace. Anche qui non è un gruppo qualunque, ma un gruppo con delle caratteristiche precise. E qui mi pare, almeno per questo testo, mi pare giusto seguire quanto propone Gerd Thyssen. Cioè il gruppo degli inviati sono coloro che si sono raggruppati, radunati attorno a Gesù, condividono gli ideali di Gesù e sono partecipi del ministero di Gesù e anche del suo modo di vivere povero e da carismatici itineranti. E mi pare, almeno a capire da questo discorso, uno dei ruoli, degli scopi primari degli appartenenti a questo gruppo è quello di rendere partecipi i figli della pace, del dono della pace messianica. E per rendere più chiaro questo concetto di re, secondo il discorso della, della missione, gli inviati per la pace hanno il compito di radunare una comunità di pace, cioè una comunità di pace in un mondo di violenza. È in un mondo che contraddice Gesù e il regno di Dio, confera anche il gesto di maledizione, eccetera. Nella tradizione, poi, questa opposizione tra comunità di pace e mondo che odia, questa opposizione viene accentuata sia in Matteo, nelle aggiunte al discorso della missione, sia nel Vangelo di Giovanni, che presenta la pace di Gesù come il dono permanente di Gesù per la comunità in un mondo che odia i discepoli. Il problema di come superare l'odio del mondo in questo testo non viene trattato. Come concetto di pace nel discorso della missione, direi, anche qui il concetto di pace ha una sua fisionomia ben chiara. La pace è un dono che viene portato ai figli della pace. E così la pace assume anche quelle caratteristiche che sono proprie del concetto di pace. La pace è un dono, viene offerto. Se uno respinge la pace torna a suo svantaggio. Conclusione. La domanda da cui siamo partiti era: la Bibbia, nel proporre l'ideale di pace messianica, come e quando tiene conto della fatica umana per un cammino realistico? Quanto permette e concede alla fragilità umana? Propone utopie realizzabili o soltanto ideali escatologici? Il concetto della pace, come presupposto almeno nelle due serie di testi che abbiamo esaminato, ha un duplice significato, direi. La pace è un dono escatologico, quasi sinonimo di regno di Dio, presente in modo iniziale nell'attività di Gesù e dei suoi inviati. Questo è il discorso della missione. È il dono escatologico in un mondo di violenza. Ma la pace richiede anche l'impegno umano per porre fine ai conflitti in un mondo di peccato. Questo sul concetto della pace. Lo studio dei testi mette in risalto parecchie caratteristiche, sia per quanto riguarda la logica della violenza che la logica del regno di Dio. Quello che più mi colpisce negli ultimi studi sul tema è la coerenza tra contenuto di pace e metodo di pace. E questa mi pare un'eredità da riscoprire nella Chiesa. Poi mi colpisce pure l'importanza che viene data a un gruppo come gruppo che diffonde la pace nel senso voluto da Gesù. E direi questo sarebbe anche o potrebbe essere il ruolo eminente della Chiesa per oggi. Per quanto riguarda la domanda se la proposta di pace dei Vangeli sia realistica, cioè tenga conto della fatica umana e della fragilità umana, ho cercato una risposta analizzando soprattutto il modo in cui parlano i testi di pace e in cui parlano di mondo di peccato, e ho cercato la risposta anche analizzando come Gesù cerca di coinvolgere l'ascoltatore per l'impegno della pace. E i testi analizzati presentano la pace come qualcosa di realizzabile, soprattutto nel discorso della montagna, e presentano pure il mondo della violenza e del peccato, smascherando il volto della violenza, e poi presentano pure un itinerario di pace. Il linguaggio di questi detti, su cui ho insistito parecchio, mi pare in parte integrante del messaggio, cioè la parola di Gesù è fattore dinamico di pace, e il modo di parlare contribuisce a dare efficacia al contenuto. E così dalla contrapposizione di due mondi, della violenza e della pace, poi anche dalla visione realistica dello stato delle cose, o anche dalla ricerca di coinvolgere per mezzo del linguaggio l'ascoltatore, e anche dall'uso del paradosso, che è il mezzo più adatto per fare ragionare, risulta che al centro del messaggio di Gesù c'è la volontà di promozione della pace, di promozione nel senso della parola promuovere la pace, ma anche muovere chi ascolta per fare un passo dal mondo del peccato verso la pace. Ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Padre Ricker di questa relazione, tanto più apprezzata in quanto elaborata in condizioni di infermità, però che senza dubbio danno anche una certa consonanza interiore col tema. Credo che ci sarà parecchio da discutere, da colloquiare su questa relazione così densa che per i non biblisti in certi punti è stata anche quasi insomma troppo concentrata, ma il tempo è tiranno. Proporrei di fare 5 minuti appena di interruzione per le necessità primarie e poi riprendere subito la discussione, se non abusiamo troppo della sua... Che non sia il caso di sentire quanti si fermano a cena da... La lettura biblica, il commento biblico è fatto con quella serenità per cui ha voluto lui stesso mostrare la coerenza tra il metodo e il contenuto. Quella serenità pacifica ci ha fatto talmente ascoltare da recepire la parola di Dio, di modo che è stata preghiera. Io particolarmente lo ringrazio perché non ha fatto l'esegeta puntuale su un passo, ma ci ha informato e ci ha indicato delle piste e addirittura anche ha toccato alcuni problemi. Penso particolarmente a quel tremendo problema dei destinatari, per cui viene fuori il discorso della Chiesa, direi multitudinarista, che forse al suo interno ha troppo concesso, forse, al peccato, e le Chiese invece o i gruppi che hanno preferito la marginalizzazione per diventare più coerentemente fedeli al Vangelo. Per me questo discorso è veramente importante. Però io adesso do la parola a coloro che voglio intervenire, preferendo, se possibile, anzitutto i biblisti, perché potrebbero eventualmente, come lui umilmente ha chiesto di essere integrato, potrebbero eventualmente integrarlo in qualche cosa. E poi ad altri che vogliono soprattutto insistere sulla apertura di problemi. Quanto restiamo qui? Fino alle 7:30? 7:30, buone. Sì. Buone, sì. L'ora. E per avvertire quanti andiamo a cena? Tutto è a posto. Tutto a posto, va bene. Allora, tu, Tessarolo di Vicenza, poi biblista, poi... Raccolgo le firme, poi Don Fabris di Udine, c'è qualche altro dei biblisti? Poi eventualmente so che Don Miccoli, no, il resto del mondo, Don Miccoli come filosofo, eccetera, e Don Trentin come moralista. E l'avrei messo in conto lo stesso, perché non c'è dibattito in cui non esista anche Boff, è super eminente esistenza dei nostri commenti. Allora, primo sentiamo Tessarolo. Allora, volevo spendere una parola, visto che il testo è abbastanza... come contenuto parallelo, in Luca, nel discorso, nel racconto della passione, dell'arresto, spende una parola, non c'è un preciso riferimento, in 22, da 35 a 38. Dunque, poi disse: quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia né sandali, vi è forse mancato qualche cosa, rispondono nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia. Chi non ha spada, vende il mantello e ne compri una, perché vi dico che non avevo compiti. Poi dissero: Signore, ecco qui due spade. E così pure questo accenno alle due spade lo troviamo nel racconto di Marco in 14:47. E dice: no, uno dei presenti estratta la spada e colpì il servo del sommo sacerdote che gli recise l'orecchio. E a proposito, cioè, di questo gruppo che poteva seguire Gesù in maniera, no, senza bastone, sandali, bisaccia, eccetera, e come mai che eventualmente nell'orto degli ulivi c'erano una spada o due spade, e poi commentare questo testo che manda proprio un richiamo all'altro insegnamento di Gesù. Fai una domanda, tu mi stai a dare una soluzione? No, pongo la domanda. È la sua domanda. No. Tu non hai un'opinione. Posso avere un'opinione, ma dico. Anche. Diamo prima la parola agli altri. Fabris. Io sono rimasto praticamente colpito dall'idea del non smascherare la violenza, e questa è una prospettiva originale, nuova nel leggere le antitesi. La violenza che si nasconde solo in tale maniera può essere efficace, può passare inosservata e trovare legittimazione. Ora, io vorrei approfondire questo tema nell'ambito delle antitesi, lasciando poi il discorso della missione in un secondo possibile intervento per limitare anche il campo di indagine. Credo che il vero mascheramento della violenza, chiamiamo pure peccato, che poi sta nella linea del formalismo giuridico. La violenza può coprirsi del non uccidere, e di fatto il comandamento del non uccidere sembrerebbe quello del quello che esclude la violenza per sé, ma questo non ha impedito tutte le forme di uccisione, e allora la interiorizzazione, nel caso della lettura che propone Gesù, una lettura profetica o di compimento, come vogliamo appunto, mostra come il legalismo giuridico, il formalismo che appare come non violenza, di fatto giustifica tutte le forme di violenza. Credo che il peccato, il vero mascheramento, è il legalismo giuridico al quale Gesù contrappone una rivelazione delle esigenze profonde, autentiche della volontà di Dio, cioè quello che lui chiama la nuova giustizia, e non come quella degli scribi dei farisei, i quali pure in nome di Dio, in nome dell'etica, in nome della religione, compivano, diciamo così, una volontà di Dio, dietro la volontà di Dio, potevano attuare forme violente, potevano arrivare fino a giustificare non solo l'omicidio, ma la guerra o altre cose. E così allora si comprenderebbe come il mascheramento della violenza, e quindi il peccato, nella ultima antitesi, non fanno così anche i pagani e i pubblicani, cioè l'amore interessato, per cui la vera contrapposizione è tra formalismo legale e autentico amore che fonda relazioni nuove. La proposta allora alternativa non è la non violenza, però me deve precisare la non violenza nella linea di Gandhi, forse la forza della verità, che è l'amore. L'amore è il modello del padre, l'autentico amore interiorizzato, radicalizzato, è quello che smaschera la vera copertura delle violenze, che è l'egoismo, che si esprime poi nella slealtà, nella strumentalizzazione della donna, nel coprire un matrimonio sfasciato con il trucco del divorzio, eccetera, cioè le varie forme. Ma la radice di fondo è quell'egoismo che può diventare anche legge, mentre l'altra parte è la nuova giustizia, che è l'amore rivelato dal padre, che deve essere attuato in maniera integra per essere perfetti come il padre. Questa allora una prima osservazione sul qual è il centro della opposizione, egoismo e verità dell'amore. E la verità dell'amore smaschera anche la pseudo attuazione della volontà di Dio, che può essere anche legalizzata, può diventare anche delle strutture legali, no? Le vedrei nell'insieme della tesi. L'ultima osservazione più marginale, questa: i destinatari dell'ultima, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. Ora, quest'ultima precisazione dei nemici come persecutori forse richiama un ambito di violenza o di contrapposizione con il mondo religioso, cioè quello della persecuzione è un problema tipico di Matteo, quindi fra le varie forme di violenza, di peccato, questo della comunità religiosa perseguitata. Va bene. Allora, due ambiti biblici, dopo vengono invece quelli culturali, filosofici. Vuoi rispondere subito a questi oppure non distrarre? Quanto ha detto il collega di Vicenza, per me tutti questi detti, un po' come dire, sono dei frammenti, direi, per cui almeno io faccio sempre fatica a inquadrarli. Una delle soluzioni sarà di farle una certa metafora, no? E io in genere avrei letto i tipi testi di questo tipo, li avrei letti piuttosto come una metafora. Questa è la mia opinione su questo testo. Ma se lei ha un'altra opinione, io sarei contento, dato che siamo in molti, forse qualcuno ha studiato anche per o più direttamente questo testo. Cioè, non è potrebbe... una spada, non è spada reale, non è... No, in quel senso, come metafora, no, dell'ora che ormai si avvicina. Non so se lei ha un'opinione o anche una... Io penso così, almeno anche se non ho... in particolare su questo tipo di testi qua, e a mio avviso però cioè se prendo cioè non come metafora ma in senso letterale il primo invito a non prendere queste cose se vogliamo. No, può indicare un atteggiamento, lasciamo stare, se lo prendiamo come metafora in tutti e due i casi, ma però in ogni caso gli atteggiamenti sotto indicati sono opposti. Allora, personalmente non vedrei una soluzione, almeno così, no. Perché se, appunto, ripeto, si prende come metafora in un caso e in un altro, sta di fatto però che i due atteggiamenti sono contrapposti nella realtà. E io credo di, almeno personalmente, di vedere qui uno stadio, forse ecco, a livello di tradizione e redazione, di vedere così una situazione mutata nella quale probabilmente le indicazioni vengono, cioè situazione nuova richiede una indicazione nuova, una indicazione peraltro possibile, cioè almeno mi sembra di non trovare tranquillamente risolto il problema di un atteggiamento e di un insegnamento di Gesù circa la non violenza con un gruppo con il quale egli vive non violento, cioè in questo senso che non fa uso, che non fa nessun ricorso, e sono d'accordo nel vedere in questo tutta quanta, no, quel tipo di un filone di insegnamento che è quello della pace analizzata a livello di relazioni interpersonali, come no, la beatitudine, beati gli operatori di pace, mi sembra abbastanza accolto il fatto che questa pace si intende in opposizione alla Pax Romana instaurata con le armi, no, e con il potere politico, lì sembra la tradizione rabbinica giudaica, si parla di una pace da instaurarsi a livello personale, nei rapporti interpersonali. Però poi qui, come nel caso dell'arresto, ho l'impressione che si cambi aspetto, non abbiamo più la pace nel senso di rapporti interpersonali come prende lei della vita quotidiana, ma qui abbiamo uno scontro di blocchi e dove entra anche il potere politico che viene coinvolto. E qui registro questo testo, dico i discepoli, no, sia in Marco che in Luca si parla della presenza di due spade. Vuol dire che c'erano dentro, probabilmente sappiamo che Gesù si aspettava, no, di essere cercato, eccetera, eccetera. E c'è sotto un principio di difesa più o meno violenta, ecco, con l'interrogazione della serie. Però vedrei due piani più o meno diversi. Sì, no, in parte la mia difficoltà è questa, no? Per l'invio dei discepoli, no? Lì riesco a inquadrarlo in un contesto più ampio. Questo mi pare in tutto, anche in tutto un movimento, eccetera. Mentre un testo di questo tipo, è come dire, mi pare è molto più frammentario e anche oppone una certa resistenza di inquadrarlo in un contesto più ampio. Certo, posso dire, in questo lo prendo alla lettera, dunque Gesù ha detto di avere delle armi. Ma mi pare strano tutto il contesto, almeno dei racconti della Passione, non parla di un tentativo di questo tipo. Per questo, per leggerlo, io dico è un frammento, e fino a quando non riesco a vedere un contesto più ampio non so come trattarlo. E lì mi pare della spada, no? Qui anche in Marco sono un po', almeno non è conosciuto un tentativo di, non so, di sommossa popolare. E così anche vedo, almeno quando gli autori, no, così presentano questi detti, in genere li sono dei detti isolati, che poi chi più chi meno, no, lo interpreta in suo favore, no? Chi fa i zeloti, no? Chi no, ma non mi pare, non riescono a dare un quadro convincente. Sì, cioè, per me mi sembrava questo, che a differenza della missione, qui c'è una situazione vitale diversa. Cioè, non è che vuole dire che Gesù ha detto che prende un terreno, cioè, abbiamo detto. E lì abbiamo i discepoli che vanno in missione e come tale devono presentarsi con questa logica che tu hai detto. E in questo caso sono loro che sono, non ci sono altri che vanno in cerca di loro, rimangono, peraltro è vero che rimangono frammenti isolati, difficili da inquadrare, ma questo per me, no, mi rimane ancora importante, perché dico, come mai non sono riusciti, la tradizione non è riuscita ad eliminare questi frammenti che sembrano andare contro invece a quel quadro ben organizzato che è il discorso della missione. Eppure permangono dentro, almeno pone il problema per me. Tante grazie, sì. Ma credo che va precisato che è un testo solo riportato da Luca, questo. Di quello in Marco poi si... No. Nei sinottici, tutti e tre, hanno l'episodio della spada nel giardino. Già c'era un giardino. Questo Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni tentano di resistere. Un discepolo, eccetera. Tutte le volte Gesù rinuncia alla difesa armata, e in Matteo è chiarissimo il riferimento: sono venuto a portare la spada, ma non per autodifesa, se sappiamo l'uso della spada. Ora, va distinto, ci sono, diciamo così, almeno due testi sulla spada, riportato da Matteo e da Luca a proposito della missione. Sono venuto a portare la spada e la divisione, e credo che è chiaramente metaforico, va bene? Poi c'è il testo di Luca solo prima del giardino, e poi l'episodio riferito da tutti sulla non difesa armata. Detto allora, solo Luca ha il testo, chi non ha il mantello, chi lo compri, e chi non ha. Allora, signore, abbiamo due spade, basta così. È la stessa espressione che si trova nel momento in cui dobbiamo difenderti, basta così. È la stessa espressione in Luca. È chiaro che c'è un richiamo. Non è la difesa armata, che è un modo per interpretare il tempo della crisi che voi dovete equipaggiarvi non come nella prima missione. E promette Luca. Questa è la possibile interpretazione che io vedo, dal momento che c'è solo Luca e in parallelo con la rinuncia alla difesa armata del giardino, con la stessa parola. Non so se questo può illuminare. Penso che sia interessante per il nostro incontro, perché noi ci domandiamo, il tener conto della fragilità, dunque, suppone e il proporre l'ideale e incamminare verso di esso, ma tener conto anche dello stadio, mi sembra che sia anche il suo discorso, contingente nel quale uno si trova, per cui in quel momento ci potrebbe quasi essere una, non dico una concessione, ma un'attenzione un po' diversa dal solito, per cui in quel momento, cioè, sappiamo che l'utopia, cioè, mi riferisco a questo discorso, da quanto ha detto padre Ecker, Gesù ha proposto questo ideale, addirittura quasi come un dovere, lasciamo stare a che livello morale, eccetera. Però da altri testi della Bibbia noi sappiamo che solo il Cristo morto e risorto darà la grazia per rendere possibile tutto questo. Quindi qui siamo in un momento di crisi in cui ancora non si è realizzato quell'evento che concederà a quell'utopia di diventare anche un cammino per molti, eccetera. Quindi un'attenzione a una debolezza che in quel momento contingente potrebbe essere una debolezza veramente paragonabile a quella di molti cristiani lungo i secoli, che per cui la Chiesa si sarebbe quasi appellata a quei testi per diventare anch'essa concessiva di quella fragilità. Le spade sono una santa, no? Ma a questo volevo dire, cioè, è possibile solo il discorso utopico a parole e la proposta di questo ideale del regno della pace per renderlo possibile, o è necessario anche un altro genere di discorsi, cioè la grazia legata all'evento della morte e della resurrezione del Cristo e la Pentecoste, il dono dello Spirito, che questo quindi diventi una concessione unicamente indicativa dell'altro equipaggiamento che è necessario per poter diventare propagatore di pace, cioè l'equipaggiamento non solo di idee, di programmi, ma anche, diremmo, di fiducia nello Spirito. Ecco, ho cercato di interpretare la perché qui è un problema nodale per me, insomma, non è un problema... Alcuni l'hanno interpretata così come giustificazione di cui sono morti nella resistenza di Gerusalemme, e Luca avrebbe inserito questo per dire, beh, anche quelli in qualche maniera, come il ladrone che gli muore accanto, può usufruire di una certa di amnistia, costretto a usare la violenza, ma è una lettura che nel testo non appare chiara. Molto più il riferimento alla rinuncia di difesa armata, voi siete fuori dalla logica, quando proponete al tempo della crisi una difesa armata. Questo è il problema. Sì, almeno se posso dare un po' di riassunto, io direi le due, come dire, proposte di lettura dunque sono state quelle di un'espressione di essere pronti in quest'ora, una specie di metafora, no? Bisogna essere pronti, equipaggiati per tutto in questa situazione estrema, una metafora della spada, come anche l'altra, no? L'altra è che sia proprio un detto che non è di quel tipo del discorso della missione, ma vuol dire proprio in questa situazione che è un po' difficile ricostruire, Gesù abbia detto due spade. Solo per me la difficoltà resta sempre che nell'ambito della morte di Gesù non abbiamo nessun'altra traccia di un movimento armato di questo tipo. E così un po' direi, ma probabilmente sarebbe da questo lo dico da approfondire poi a casa, per questo anche ringrazio, ma anche per cogliere proprio anche meglio il problema. Su quanto ha detto poi Don Fabris, lì sono d'accordo, e per violenza, no? Monsignor Sartori da dommatico, no? Probabilmente preferisce il termine peccato originale. Io dico solo, anche per me, violenza per me ha da fare con quanto quelli di teologia dogmatica chiamano peccato originale. È sempre quella escalation, no? Sa come Scharbert ha scritto un volume, no, sul peccato originale e il pensiero del clan e così via. E lì mi pare anche, soprattutto quel crescendo della violenza, è proprio l'esperienza base che sta alla base del peccato originale. Poi anche sul formalismo giuridico, appunto, io in una conferenza si può dire qualcosa, ma ringrazio per questo, anche il formalismo giuridico può essere una di quelle forme di violenza, basta leggere anche i Vangeli su questo, verso i malati, il formalismo come violenza verso i malati, eccetera. E anche questo è della, come dire, dei due mondi, della violenza e della pace, è piuttosto una proposta di lettura. Mi pare che si potrebbe continuare, io volevo dare un po' di pista, ma poi lì mi pare molto fecondo per vedere da vicino, sia in campo redazionale che tradizionale, o anche nella vita di Gesù, per vedere che ci sono veramente quei due mondi di violenze di cui Don Fabris ha detto, appunto, ha parlato. Così. Grazie anche sulla persecuzione che è caratteristica di Matteo, la vediamo qui nella sesta antitesi, poi nel discorso della montagna, della missione. Passiamo un altro fronte, sentiamo il fronte culturale. Niccoli, così fai un anticipo di domani. Prego. Una prima domanda, diciamo, di curiosità esegetica, la rivolgo al padre Egger, ringraziando per l'illuminazione. La seconda forse chiamerà in causa il dogmatico, il sartorio, ad ogni modo. Ecco, la prima domanda sarebbe questa: siccome ci siamo fermati alla considerazione della non violenza, della pace nel Nuovo Testamento, io direi di dirci qualcosa sul rapporto tra la categoria Shalom dell'Antico Testamento e una forma di pace tradita, per riprendere qui il titolo di Chiavacci, nel senso che l'Antico Testamento, mentre ci parla di Shalom, ci propone una immagine di pace che è frutto di una guerra che zela l'onore di Yahweh. E questa domanda la pongo un po' pensando che anche nei nuovissimi tempi nella storia della Chiesa si continua a parlare di Shalom e ci sono paci tradite. Allora è una domanda un po' così di sollecitazione di storia ecclesiastica. Ecco una prima domanda. La seconda poi, ecco, questo tipo di esegesi che abbiamo ascoltato comporta una presa di coscienza di una evangelizzazione integrale, diciamo, della, chiamiamola appunto, via della pace all'interno della Chiesa, cioè della Chiesa in toto, oppure questa evangelizzazione deve privilegiare alcuni gruppi particolari, a tal punto che poi questi gruppi dovrebbero essere presi in una particolare attenzione proprio da parte della stessa gerarchia. E allora chi sono gli obiettori di coscienza, in che considerazione vanno tenuti questi pacifici sui generi, eccetera? Ecco, qui potrebbe intervenire anche il senatore. Grazie. Però non chiediamo queste cose immediatamente a lui, saranno il frutto anche di la riflessione di domani, perché quando io prima ho detto che con molta utilità lui ha distinto gli uditori, ha posto il problema di quali sono i destinatari, e distinguendo gruppi selettivi oppure invece qualche cosa di più ampio, e dopo ha citato l'esempio di tutta la Chiesa e delle chiese marginalizzate, dei gruppi più... Lui ha posto un problema che penso lo intenda deferire a tutti noi questi giorni. E Trentino. Io vorrei chiedere sulla sesta antitesi se sia possibile impostare un discorso di esortazione, no? Come il discorso della montagna all'amore del nemico, senza presupporre o richiamare la famosa regola d'oro. Perché dico questo? Perché quando nella antitesi si dice amate i vostri nemici, si suppone la tesi spiegato bene padre Hegel, dice amate il prossimo. Il prossimo lì va inteso in senso descrittivo, cioè colui che appartiene al clan, no? Al gruppo, e odierai il nemico. In senso descrittivo significa odierai colui che non appartiene al gruppo. Gesù propone l'antitesi, che tralascia intanto il termine prossimo, e dice amate i vostri nemici. Quindi amate coloro che non appartengono al vostro gruppo. Ecco, qui c'è in certo senso l'esortazione all'amore universalistico, superamento delle barriere dei clan, e questo è lo specifico, direi, cristiano. La mia domanda è questa: si può impostare un discorso esortativo di questo tipo, un po' di tutto il discorso della montagna, cioè sull'amore universalistico, se, ignorando la regola fondamentale fa all'altro quello che vorresti che l'altro facesse a te, non fare all'altro quello che non vorresti che l'altro facesse a te? In altre parole, come può avere una eco nel cuore di ogni uomo, perché è discorso universalistico, questo discorso specifico rivolto ai cristiani, se non si parte da questa regola fondamentale dell'amore, questo è che non è specifica del cristiano, che non è specifica del cristiano. Questo è il discorso. Cioè, la regola d'oro non è specifica. Non è specifica. E attraverso di essa. Ecco, solo il presupposto. Siccome l'esortazione si rivolge alla volontà, no? Alla volontà, sia come così modello esemplare, sia come grazia, come forza, se vogliamo, luce e forza. Ogni esortazione presuppone che siamo d'accordo su che cosa, dobbiamo fare quando veniamo esortati, perché se no, come dice Agostino, tutti camminano bene ma per strade diverse. No, esortare una persona a fare il bene quando questa persona non ha falsa idea di bene è come esortarla praticamente a camminare in modo sbagliato. Quindi la mia domanda è questa: è possibile fare un discorso sulla sesta antitesi, dimenticando completamente il discorso, sì, la regola d'oro? Boff, moralista, lui moralista. Boff, invece è tutto Boff, moralista, quei moralisti, quei linguisti. Non cambia di specializzazione. No, ma... Dunque, l'apprezzamento della conversazione è già stato espresso dai tecnici, e quindi io non aggiungo nulla su questa mia consegna. Vorrei soltanto insistere un po' su alcuni punti già accennati da Miccoli. Il rapporto con il Vecchio Testamento. Ci sono stati due accenni, se ho capito bene, se non ne sono sfuggiti altri più importanti. Il primo è stato quello della Entlatum, no? L'hai cacciato, del Dio dell'ira. Il secondo è stato quello della rivelazione del Dio per nulla violento, no? Del tutto non violento. Benissimo. Ecco, mi pare che sarebbe molto interessante se potessi aggiungere qualche cosa proprio per chiarire questo rapporto, cioè per vedere come si riferisce Gesù nella concretezza del suo insegnamento, del suo atteggiamento, a questo cammino progressivo, in quale misura ne può essere eventualmente il compimento, oppure può rappresentare il nuovo, oppure può essere semplicemente la ripetizione, la contestazione, non lo so. E perché questo sarebbe molto importante, soprattutto in una prospettiva precisa emersa chiaramente dal tuo discorso, che è questa. Tu hai individuato in maniera accurata Sittenleben e i destinatari. Questi destinatari ci sono apparsi proprio in questa individuazione precisa, gruppi piuttosto limitati. Allora, in che misura e in quale modo noi possiamo ricollegare questi destinatari, queste loro comunità, con il popolo del Vecchio Testamento, eventualmente con il resto di Israele? Mi pare che sia un tema che potrebbe facilmente così aiutare a chiarire un pochino tutta la portata dell'arco, diciamo, biblico, no? Di questo discorso sulla pace, e quindi anche chiaramente la sua conclusione. Proprio dalla fissazione del rapporto di questi gruppi gesuali, no? Con il popolo del Vecchio Testamento, forse verrebbe qualche chiarificazione possibile nello stabilire il tema che mi pare sia ancora amico, di anche quel del rapporto di questi, dei piccoli gruppi, per esempio, variamente individuabili, è la Chiesa istituzionale, il che ovviamente ci mette proprio al centro del problema ermeneutico. E qui il problema ermeneutico è chiaro, non è più contro di te quello che sta per dire, no? È quello che sta affidando a tutti. Anche l'altro non è contro di me. Ecco, il problema ermeneutico è quello che deve, per esempio, chiaramente, mi pare, a partire dalla tua relazione, farci riflettere sul tema della realizzabilità della proposta di Gesù. Una realizzabilità che va accuratamente storicizzata e nel tempo di Gesù, e dico realizzabilità voi in termini di realizzabilità concreta della pace, qui anche nei termini di proposta, no? Dico, le categorie dei tempi di Gesù, no? Che potevano così facilmente indurlo o costringere a espressioni che in altro contesto sono problematiche. Oggi mi pare, per esempio, che facilmente si potrebbero accusare la proposta di Gesù, non dico di utopia, che sarebbe un grande onore, ma di volontarismo, facilmente ideologizzabile. Dico, potrebbe essere, non è quello di cui io sono convinto, ma mi pare che dovremmo appunto tenere presente questa possibilità per difenderci e difendere questa proposta di Gesù, se la riteniamo positiva, da queste possibili vanificazioni, addirittura negazioni proprio con accuse di ideologicità. E a questo tema direi riallaccerei quello sul quale tu hai insistito, che è stato anche da Fabio sottolineato come un tema originale, quello della violenza come realtà che necessariamente si nasconde, quindi la necessaria mistificazione della violenza. Ora, questo qui è un tema che ha un rilievo sicuramente molto grande per il mio nel nostro mondo, ma c'è un elemento abbastanza interessante che mi pare forse varrebbe la pena di introdurre. È possibile interpretare l'avvio, l'evenire del nostro mondo in una direzione nella quale addirittura la necessità della mistificazione ideologica è minore che per il passato. Vale a dire, in una sistemazione tecnocratica della società, i meccanismi di imposizione e di costrizione non hanno più il bisogno che avevano in passato della mediazione ideologica. Ora, mi pare che se noi vogliamo guardare al nostro mondo in tutte le sue componenti, soprattutto in quelle che potrebbero essere le linee emergenti, questo aspetto potrebbe essere preso in considerazione proprio nel senso della storicizzazione e della ermeneutica di questa proposta. Va bene. Abbiamo incominciato un dibattito che direi allarga tutto il nostro incontro. Comunque tu rispondi dal tuo punto di vista. Beh, un po' su quella richiesta di informazione sull'Antico Testamento. Sì. L'ultimo volume dell'83 è quello di edito da Lofink. E lui dice, sfogliando, adesso non so se c'è anche una sigetta dell'Antico Testamento, dicono, adesso non so, che negli indici delle teologie dell'Antico Testamento il vocabolo violenza non si trova. Eppure il padre Schwager, in una poche eccezioni sempre, il Schwager ha contato e ha parlato un 600 volte i comandi di distruzione completa, eccetera, 1000 volte della collera di Dio. Dunque, dice il padre Lofink, sarebbe un tema, no, di una teologia biblica. E lui fa una lettura a partire da René Girard, un francese che ha introdotto questo modo di lettura, che ha spiegato un po' i meccanismi della violenza che ho accennato. La violenza mistificata, una volta smascherata, perde la sua forza, eccetera, questa logica, eccetera. E così padre Lofink, già in un articolo del... mi pare 78-79, faceva un primo articolo Entlarvung der Gewalt im Alten Testament, smascheramento della violenza nell'Antico Testamento, e lì dice che c'è nell'Antico Testamento, come tutti i sistemi, no, dell'Oriente, c'era questa violenza nascosta. E anche l'Antico Testamento parla con disinvoltura tante volte di questa violenza. Però dice... c'è un secondo filone già nell'Antico Testamento che va a smascherare la violenza, a cominciare dai primi capitoli della Genesi. E lì Lofink trova soprattutto quelle caratteristiche e le origini della violenza come descritte anche da Girard. Cioè dice l'uomo che vuole essere come l'altro, e questo è l'inizio della violenza e della perdizione. E così dice anche la mimesis, cioè voler essere come l'altro crea la rivalità, e la rivalità arriva alla violenza, alla distruzione. E lui dice appunto il pregio dell'Antico Testamento è quello di fare vedere i meccanismi della violenza, e già questo è un passo per superare i meccanismi. Poi dice man mano l'Antico Testamento non fa vedere solo gli eventi di violenza, ma a volte li fa vedere anche, per così dire, dall'interno, dal punto di vista della vittima. Soprattutto questo poi nei testi di Isaia, lì fa vedere il punto di vista della vittima. È anche questo un nuovo punto di vista che aiuta a superare. E così padre Lofing trova un punto culminante di questa, di questo smascherare la violenza e anche in un certo senso superarla nei testi di Isaia. E poi dice questo filone di continua nel Nuovo Testamento. Mi pare questo padre Lofing, come sempre, no, molto attento a una, come dire, ai fenomeni di cultura, e così fa, lui fa questa lettura. Per questo direi, per il Nuovo Testamento, da una parte mi pare il Nuovo Testamento segue con disinvoltura il linguaggio e il modo violento dell'Antico Testamento. Per me la rivelazione di Giovanni, con tutto il rispetto, è in parte continuazione, come l'Apocalisse, sì, l'Apocalisse in parte un continuare il filone violento. Però dico sempre, sa, sono le bestie, no, quelle cattive, però dico sempre, già l'Apocalisse porta poi un altro simbolo, che è l'agnello, che di per sé è il simbolo della non violenza. E per questo direi, pur continuando questo filo della violenza, di una fina così, una parola, tutta, mi pare anche tutta l'apocalittica in genere, è fondata su quella speranza di un Dio violento, che metterà fine una volta a tutte le ingiustizie. Questo mi pare è il vero volto anche dell'apocalittica. L'Apocalisse segue questo filo, però mi pare lo quasi distrugge dall'interno, presentando come contrapposizione l'agnello. E da qui mi pare anche tutta il pensiero escatologico di Gesù è in forte contrapposizione con questo mondo violento di un Dio che interviene in modo violento ponendo fine alla storia. Questo mi pare anche per tutto, e così almeno per me mi pare anche tutti i testi dell'Antico e anche del Nuovo, in parte bisogna leggerli con questa ottica anche di non violenza, che mi pare quella di Gesù. Questo anche per avere il quadro completo, mi pare. Regno di Dio ha una sua coerenza, per esempio l'agire di Gesù, i miracoli, che sono nella coerenza della bontà, perché potrebbero essere anche nella logica della violenza. Il miracolo come prova, distruggono qualcuno per fargli vedere chi è il potente. O anche tutto l'atteggiamento, non so, di creare una comunità, o anche superare le barriere, perché anche lì sarebbe la soluzione apocalittica violenta, distruggiamo tutto il resto, facciamo una comunità santa, e tutto il resto distrutto. Per questo mi pare c'è una grande logica e coerenza interna, che più qui vediamo anche un modo di lettura dell'Antico Testamento. C'è anche poi quella, la regola d'oro. Per me il detto amate i vostri nemici, per me almeno dico, perché ognuno ha anche le sue ricette di casa, no? Come sapete gli esegeti, ma penso anche le altre materie avranno una ricetta di casa, no? Sa come pensano le cose. Per me, detti di questo tipo, io li ritengo sempre, come dire, un riassunto non so, di una parabola in questo caso. Per me il filo per arrivare agli amati nemici passa per la parabola del buon samaritano. Amerai il tuo prossimo, poi in questa parabola viene specificato chi è il prossimo, cioè io devo farmi prossimo anche al nemico. E per questo direi, secondo me, si può arrivare, forse è un modo più concreto, secondo me si può arrivare a un detto di questo tipo. Poi a pensare tutto il resto dell'attività di Gesù, secondo me mi pare che si possa arrivare. In più gli esegeti a volte dico, parlano di questo aspetto di reciprocità, dicono soprattutto Luca, ma anche qui c'è sempre quell'idea del do o des che potrebbe essere di fondo. Così una prima risposta, quella esegetica, mi pare si possa arrivare. Un'altra domanda, e lì rientra ancora, come dire, la capacità di Gesù, perché lui riesce a convincere con la parabola a questo detto, che poi in forma abbreviata si trova nel discorso della montagna. Un'altra questione, mi pare, dato che lei è moralista, no? Un'altra questione è quello, non so se ho capito bene, è quello del consenso. Come riesco a trovare il consenso a cui di colui al quale mi rivolgo? Lì mi pare sarebbe piuttosto, sarà una riflessione etica necessaria, e mi pare forse nel suo campo potrebbe essere necessario di fare una mediazione, come si dice? Di fare una mediazione di questo tipo, passare da quanto riconosciuto universalmente e far vedere le implicazioni di questo tipo. E questo mi pare per il lavoro dell'etica e della morale, questo non dico potrebbe essere necessario, dico potrebbe perché io non sono di competenza, ma solo almeno noi, gli esegeti cattolici di lingua tedesca, avevano questo, la riunione di marzo è stato proprio questo morale e etica del Nuovo Testamento, c'era Pöckle, Furger, eccetera, e lì i moralisti, come ho capito, trattano molto di quel problema del consenso in una società pluralistica, penso, e lì mi pare potrebbe essere utile, senza che poi l'esegeta dia la sua benedizione, no? Siamo contenti se chiedete la nostra benedizione, no? Ma dico, potrebbe darsi che sia necessario in campo dell'etica e della morale, se, almeno questa è la mia posizione, non so, ricetta di casa, forse qualcuno degli esegeti è di un altro parere, potremmo anche discutere. Questo poi per i gruppi, questo adesso non prevenuto, dico solo che la non violenza può fare anche essere programma di un gruppo, di una massa, basta pensare a Martin Luther King, può essere anche, poi la storia della Chiesa, poi lì forse tratteremo domani ancora di più, perché mi pare molto molto interessante proprio per vedere anche i condizionamenti sociali, lì mi pare purtroppo la non violenza e questo è talmente, mi pare, condizionato da un certo modo di vita, da gruppi, eccetera, che... ma quello non metto lingua. Adesso spero almeno di avere risposto più o meno. Sì. Sì, io riprendo e sintetizzo il dibattito in questo senso. Mi sembra che da biblisti privilegiate il Nuovo Testamento alcuni passi. Dalle domande emerse circa il rapporto con l'Antico Testamento, Antico Testamento, viene fuori la domanda che ci interesserà anche domani, cioè la Chiesa quando ha nella lotta con Don Marcione nel canone ha reagito per affermare che anche l'Antico Testamento fa parte della parola sempre attuale che deve generare la Chiesa, allora mi sembra che lì ha posto in radice il nostro problema. Cioè, il problema è non più solo gruppi che sono, direi, abilitati a realizzare l'ideale evangelico, ma la Chiesa intera che incorpora dentro di sé l'Antico Testamento e quindi, direi, mette come, direi, genesi, animazione dei suoi membri, anche tutta quella storia pedagogica nella quale in fondo c'è il mondo. Allora il problema attuale di oggi è questo: è possibile la pace non solo per gruppi, ma è possibile anche questa logica della pace per tutta la Chiesa? E terzo, oggi il problema è per il mondo. Cioè, è possibile, direi, veramente far entrare nella logica del mondo questi ideali di pace? Per me la radicazione è biblica, cioè dall'avere assunto l'Antico Testamento come elemento integrante della parola sempre viva che deve generare la Chiesa. Quindi è chiaro che in questa sera noi abbiamo, direi, messo l'attenzione su questi momenti vertici, i quali però, come abbiamo sentito, sembrano quasi soltanto consacrare e consolidare la realizzazione di questi ideali in gruppi. Sembra che la Chiesa, invece, in un certo senso, avendo preso ancora l'Antico Testamento come questo Dio, che è del Dio dell'ira, anche se ho un filone che dovrebbe essere vinto dall'altro filone, come tu hai detto, dell'agnello immolato, questo Dio però è ancora predicato e tenuto presente. E sembra quasi che questo elemento tenga presente l'umanità. Ecco il problema. Non so se sono riuscito a individuare qual è, a mio giudizio, il problema che noi dobbiamo discutere anche a livello biblico. E allora, eventualmente, se vi sembra che questo problema, anche dal punto di vista biblico, possa essere tenuto presente, perché le obiezioni, cioè le domande di Boff del rapporto gruppi Antico Testamento, le domande di lui sui gruppi, direi il problema stesso di questi frammenti che non si riesce a mettere nel contesto del discorso della montagna, ma se teniamo presente tutta la parola di Dio dell'Antico Testamento ad oggi, abbiamo questo discorso di un Dio il quale anche continuamente oggi si avvicina con quei volti dell'Antico Testamento. Cioè, Dio apocalittico, vorresti... Sì, apocalittico, cioè lui ha detto migliaia di volte che Dio viene presentato così, eccetera, eccetera. Nei Salmi siamo ogni mattina, noi ogni giorno, quando ci sono braviario, convocati a leggere un Dio che decide contro altri, cioè... ci fa essere contro una stamattina, mi pare, ieri avevo letto, c'erano cioè, i miei nemici, signore, eccetera, eccetera, fa che essi muoiono, eccetera. Abbiamo questo tema. È vero che i liturgisti, ci hanno detto, hanno tagliato qualche salmo, eccetera. No, io sentivo quasi la necessità di questo discorso, perché altrimenti può parere che, insomma, noi privilegiamo a un certo punto un determinato complesso, una determinata sintesi, facendo violenza a tutto un complesso di cose. Certo, mi pare vero questo riferimento a Marcione e al fatto che la Chiesa del Nuovo Testamento non si è mai, pur con molte oscillazioni possibili, ma non ha mai espunto del tutto l'Antico Testamento. E, insomma, lo ha sempre mantenuto e conservato fino a un certo punto come valido, pur reinterpretandolo, ma non lo ha mai buttato via. Ma il fatto è che c'è dentro una linea che a me non pare semplicemente periferica o superata, ed è la linea della inimicizia di cui si parla fin dall'inizio, no? Fra te e la donna, fra il semen tuum e il semen ius, dunque già impostata in eterno, e che viene giù fino all'Apocalisse in modo molto coerente, no? Il fatto del nemico. Ora, è facile dire il nemico è nella trascendenza, la lotta è tutta spirituale tra la luce e le tenebre, tra gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Ma questo schema che sta nella Bibbia proietta continuamente le sue categorie nella vita della Chiesa. Penso semplicemente ad Agostino con le due civitates, che non sono una faccenda puramente trascendente, non sono neanche identificabili con organismi concreti e istituzioni terrene, però sono una realtà, non sono soltanto un'idea trascendente, no? E le due civiltà adversantur, sono in lotta l'una con l'altra, che quel modello lì che sta nella scrittura abbia continuato a dare certi stimoli o certi insomma a servire perlomeno da richiamo, a me pare il minimo che si debba dire, e certamente risalendo al piano biblico del discorso, andrebbe tenuto presente questo, almeno per giudicarlo, per ridimensionarlo, per ridurlo, insomma, o per eliminarlo se è possibile, insomma, no? O per insomma, anche tenerlo presente nella sintesi, che volendo essere una sintesi globale, deve tenere in considerazione tutti gli elementi, anche se contraddittori o difficilmente riducibili a un polo solo. Pronto? Sì, un po'. Ah. Vorrei rilanciarmi a un discorso qui, perché mi sembra abbastanza importante, ti ho detto sempre, e tutti mi pare sia un po' Löffler, che la verifica che la salvezza e che la redenzione è nella storia, è più nell'Antico Testamento che nel Nuovo, cioè è in una lettura del Nuovo attraverso l'Antico. E proprio perché è nell'Antico Testamento che la salvezza viene presentata come un problema storico, come un problema di popolo, e che spesse volte passa attraverso la violenza. Non dico proprio come levatrice della storia, ma insomma, in certi momenti, sicuramente come realizzatrice di una salvezza del popolo. E questo credo sia un'acquisizione importante nel presente, al di là di tutti i pericoli che può comportare integralismi di vario genere, ma che sicuramente impedisce di trasferire tutto al dopo la morte o al di là il problema della salvezza. Beh, io un po' vorrei parlare sui testi, no? Dato che in una lettura di una relazione, un convegno di questo tipo, quali testi prendere? Io ho preso due gruppi di testi che sono, si impongono, ma almeno a vedere la concordanza si potrebbe prendere anche altri testi, per esempio Giovanni 13-17, che mi pare tutto il problema di una presenza in un mondo ostile senza la presenza, come dire, corporale di Gesù. E lì faremmo quella lettura, un gruppo di comunità, una comunità che ha il precetto della carità in un mondo ostile, di cui ormai è, non so, che fare con questo mondo ostile, quasi quasi, no? È una nota pessimistica. Questo uno. O potremmo prendere tutte i saluti delle lettere, di tutte le lettere, no? Che hanno questo saluto di pace. Non so adesso quale lettura, un po' alla maniera di Schlier, no? Che dice ormai è questa comunità a cui San Paolo, eccetera, no? Dà o fa questo dono della grazia. Questo uno, altri testi almeno come gruppi per il Nuovo Testamento, non direi, che non cambierebbero, mi pare tanto, forse un po' la pace in San Paolo. Quello sarebbe tutta una nuova relazione con Dio, anche uno degli aspetti. Poi però per la lettura dei testi violenti dell'Antico Testamento, almeno anche questa ricetta di casa, no? Come io lo faccio, mi pare che il testo stesso della Bibbia, che è sempre quella completa, Antico Testamento e Nuovo Testamento, il testo ci può dare anche l'indicazione di lettura, come vuole essere letto. E allora solo per il contenuto di testi violenti e non violenti non mi pare che questo già basti. Potrebbe darsi che per il, come dire, il susseguirsi del presentare i fatti, per delle note così, il testo stesso della Bibbia completa, purtroppo solo il Nuovo Testamento, no? Ma che il testo stesso ci dà anche l'indicazione di lettura. E così direi, come ho cercato i testi dei Vangeli che ho spiegato, dire che vogliono avviarci verso la pace, per il linguaggio, eccetera, Così mi pare una proposta che tutta la Bibbia voglia portarci, indirizzarci in quella direzione. E allora anche all'interno della Bibbia leggo i testi violenti, però mi dico, il canone completo me li fa leggere in questa direzione. E in più forse io penso sempre anche, la lettura non dipende solo dal testo, ma dipende anche dalla nostra situazione. E dato che ormai la pace, c'è una tale consapevolezza di pace, che quando si lavora con i fedeli così, se ci sono i testi violenti c'è una reazione talmente violenta, no? Anche questo mi pare, ci fa pensare, che alla luce di una nuova esperienza, noi vediamo, se noi leggiamo i testi come, come dire, giustificazione della violenza, finiamo male. Questo lo dico solo, è la mia ricetta di casa. Ma il vero problema per noi, lo pongo come problema perché io non è soltanto di vedere se incorporando l'Antico Testamento la Chiesa abbia, direi, messo in movimento il dinamismo di andare verso il nuovo, ma la domanda di oggi per noi è se e quanto abbia tenuto anche in conto il debito di aspettare i deboli e di ridare ancora un po' di credito a chi vive da Antico Testamento. Questo è il problema nostro. Ammetto il primo è chiarissimo, l'antico deve essere interpretato alla luce del nuovo, ma sappiamo quante violenze sono state fatte sull'antico anche per interpretarli cristologicamente. La vera domanda sottile che noi dobbiamo farci per arrivare alla soluzione, perché tutti tendiamo penso a quella soluzione, cioè ripeto, non fare che solo alcuni gruppi vivano il Vangelo, ma tutta la Chiesa viva e addirittura diventi stile dell'uomo. Questo è il problema nostro. Ed è per questo che ritengo utile l'Antico Testamento, perché, come diceva prima, in tale l'Antico Testamento ci parla di un popolo, di una storia intera nel quale in filigrana si vede tutta la storia e non quindi il gruppetto dei carismatici. Ma allora il problema è questo. Se, ripeto di nuovo, accettando il primo, che è il più decisivo, quello che è stato messo, nell'antico, incorporando l'antico, quanto e quale eventualmente è il grado di condiscendenza che dobbiamo dare ancora a chi deve fare il cammino a partire, eccetera. Questo è il problema, non so se l'ho reso. Domani ci avrò il terzo domanda preparato. Ma io rimango un po' esterrefatto, perché dico che tutto l'Antico Testamento Dio sia il Dio dell'ira, ma mi sembra direi anzi che sostanzialmente non lo è. Ci sono momenti in cui appare come tale, ma tu dicevi leggiamo i salmi, ma tutti i salmi, se sempre letto il Dio e viene divisa del povero, e non si siamo mai accorti che c'era scritto che tutti i salmi, se letto per centenni, no? Il breviario marchi di questo del povero, no? Che Dio è il suo aiuto, questo ci siamo sempre dimenticati, insomma, e quindi ci sono vari modi di leggere le cose. Volevo dire, no, io credo che io non sono un buddista, ma ci sia una variazione profonda nell'esperienza del popolo di Israele quando cominciano i guai, quando comincia il profetismo. Cioè, quello che prima era l'essere il popolo di Dio, la giustificazione per tutti, perché poteva fare, no? Buttarci la terra, di me sono il popolo di Dio, faccio quello che è. A un certo momento si ribalta, a partire da Amos almeno, si ribalta totalmente, diventa la critica sul popolo. Perché tu fai questo, tu non sei più il popolo di Dio. Mentre prima dici, siccome sono il popolo di Dio, allora posso, adesso no. Il popolo di Dio dovrebbe essere così, tu non lo sei, sei violento, sei il popolo che c'è dominio, potere, no? L'altro, ma io citerò Isaia 32, per esempio, ma un testo qualsiasi, per mille, allora tu sei giudicato. No? Se c'è violenza di Dio, è violenza sul suo popolo che tradisce la logica di non violenza, la logica di e quando Gesù, Matteo 23, dice queste cose dovevate fare, cos'è? La giustizia di Dio, che è sempre giustizia per il povero, per questo al povero, misericordia, benevolenza, no? Eccetera, e fedeltà alla promessa di salvezza. Questo è già dell'Antico Testamento. Non è che Gesù inventa qualcosa di nuovo, no? Dice voi avete sbagliato tutto nel capire, no? La chiamata di Dio. Questa era la chiamata di Dio. Questo, no? Un'altra osservazione, no? Ci sì, certo che ci sono il Dio dell'ira, ma insomma, non è che questo Dio dell'ira predomini in tutto l'Antico Testamento. Mi sembra che sia anche molto cauto, certo. Ora, se non c'è andare a fare, non posso fare nemmeno di fronte a questi dotti fabbrici, no, ma dico anche nella guerra, io sono molto misurato, insomma, ecco, non è che andava a ammazzare anche volete, insomma, ecco. Quanto alla citazione di Zeredei, però io ci avevo delle perplessità, perché c'è un amore duo civitatis dunas, quindi le due città sono la città in cui il tipo di relazione è l'azione di reciproco servizio, quindi non violenza, e l'altra è la città in cui l'individuo dominante imperato, dominio vuol dire violenza, vuol dire potere dell'uno sull'altro, no? Esercitato, destinato, lei con il 14, non ricordo il capitolo, ma c'era un tavolo del duos, civitatis duas, quindi le due città non sono in combattimento fra di loro, una, la città che vincerà, è la città in cui ogni serve un timpice all'incaricato, questa è la città che vincerà, la città dell'agnello che poi è morto, invece di andare a battagliarsi, insomma, no? La città perdente è la città del leader, del dominio, della libido dominante, quindi dell'imposizione sull'altro. Quindi non è che ci sia questa lotta tra due città, io non credo che D'Agostino veda fatto questa grande battaglia escatologica, oddio del dire altre cose del genere, anzi. Questo mi sembra, tant'è vero che poi D'Agostino altrove dice nessuno sa dov'è questo confine, perché dove sono gli uomini dell'amore, nessuno sa, possono essere fuori del suo chiesa. Questo come riguardo alla citazione del Decimità Dei, non credo che sia del tutto appropriato, ma l'opinione. Possiamo stare alla patristica, sentiamo i biblisti cosa dicono, il filone. Riguardo dell'ira di Dio, come si parla di lotta per la pace? Credo che anche il tema ira di Dio dell'Antico Testamento e polvere di Dio debba essere letto autenticamente come la forza di Dio che inevitabilmente vincerà il male, che poi si esprime nell'Antico Testamento anche in maniere concrete e limitate, caratteristiche dell'Antico Testamento di Gasparia, che è il cammino e quindi anche i suoi limiti. Ma come la forza di Dio che finalmente vincerà il male, perché una metodologia non violenta, tante volte soccorre, se non ha alle spalle, come per esempio per i martiri nell'Apocalisse, se non ha alle spalle la certezza che l'agnello è vittorioso, come si fa a essere agnelli in certi momenti? Perché l'amore, di fatto, in certi momenti, non vince per niente, è solo complicato. Allora, tutto questo riflette della collera di Dio, che poi è la collera per i poveri, per la giustizia, vuoi tirarla via dall'Antico Testamento? Perché allora si tirerebbe via un attributo fondamentale di Dio, che è il Dio vittorioso contro il male, che è il Dio che fa giustizia. Nel Nuovo Testamento la giustizia viene avanti in una maniera nuova, però l'annuncio dell'Antico Testamento è così forte in Cristo, per cui lui può usare veramente questa metodologia caratteristica di colui che sente fino in fondo che veramente Dio comunque vince. Perché se non si ampare questa consapevolezza, noi inevitabilmente siamo violenti, in un modo o nell'altro. Oppure ci trinceriamo in una metodologia non violenta, nel senso che, per carità, che non succeda qualche cosa d'altro, gente che non fa niente, che combattiamo gli uni contro gli altri, ma credo che non arriveremo a quella che è la forza caratteristica di Gesù nel propugnare questa metodologia, perché adesso non so, non so dire precisamente, ma mi pare che l'Antico Testamento, nei momenti in cui parla, per esempio, del servo di Isaia, oppure in cui parla delle vittime, il libro della sapienza, l'ambiente di violenza, però. Sono vittime che perseverano, ma se è un profeta di la verità, quindi c'è qualcosa di più certamente. ma che questi si pongono addirittura a dare, uso il linguaggio bellico, a dare l'assalto al mondo violento mediante una testimonianza non violenta, mediante la testimonianza dell'amore, come è caratteristico dei discepoli di Gesù, a me pare che nell'Antico Testamento, non so, non si veda. Anche in altri passi del Nuovo questo sembra scomparire un po', ma nel discorso quello che è privilegiato è quello che si è proprio programmato, quello ai discepoli quando li manca e anche quella montagna. È proprio una specie, usiamo la parola bellica perché è la guerra dell'amore per conquistare il mondo violento. Perché la pace si esce premendo dei conflitti, ma in che senso? Come? Come vittoria definitiva del male, perché sennò non c'è pace, ci può essere anche il superamento di certi conflitti, diciamo così, ma ancora non è pace. Allora, forse non è male tenere presente tutto l'Antico Testamento e tutto questo filone che è indispensabile di fare per la pace. E poi forse anche definire un po' meglio questo termine pace, che appunto detto ha una accezione immensa ed è dato come termine tecnico, ma certamente corrisponde e esprime tutta quanta l'esperienza di Gesù e tutto il suo missione. Bene, con quest'ultimo intervento terminiamo, se vuoi dire qualche cosa. No, ringrazio. Sì, il fatto stesso che siamo andati 7 minuti al di là del limite stabilito vuol dire che la discussione era stata vivace, interessante. Allora ringraziamo di nuovo padre Ecker e arrivederci in lunga cena. Forza in quanto concezione è da mettersi in crisi. Quindi se io parlo di speranza non parlo come utopia, ma parlo di speranza senza speranza, era Paolo, su questo senso, no? E allora la sola speranza di pace è quello di riconoscere i limiti del finito. Perciò non c'è da una parte la pace e da una parte la guerra, c'è sempre pace e guerra, ma secondo io se riconosco i limiti del finito. Quindi la tua espressione, Negri, mi piaceva prima quando parlavi dell'uomo assoluto, cioè la libertà assoluta. No, questa è l'espressione dussoiana. Sì, ma io la interpreto in questo modo, cioè l'uomo assoluto, in quanto che l'uomo si sente quasi il dominatore del conoscere e quindi si sente il superuomo sotto questo aspetto rispetto all'oggetto, mentre invece l'uomo che riconosce i limiti del finito, l'uomo immediatamente riconosce ciò che non è finito, perciò riconosce l'infinito, a prescindere da questo infinito tu non assolutizi con nessuna trascendenza, come dice Chiavacci, senza in questo cadere, come tu dici, lo storicismo, perché lo storicismo sarebbe un assolutizzare un determinato tipo di trascendenza, mentre Chiavacci voleva dire un superare un determinato modello di trascendenza e metterlo come la trascendenza. Questo è che bisogna. Quindi lui non voleva cadere, anzi non voleva cadere nel stoicismo. Quindi questa apertura a, io direi, io rimarrei solo fermo in questa apertura a, significa superare la libertà assoluta, perciò l'uomo assoluto, e quindi significa avere un atto, cioè formarsi un atto di umiltà nei confronti delle teorie, tutte le teorie, e riconoscere il piano dell'altro. E qui direi l'altro, il motivo dell'altro è per me un tema fondamentale. Cioè noi ci troviamo sempre di fronte all'altro, sia nell'ambito del conoscere e sia nell'ambito della trascendenza. Quindi dobbiamo superare questo altro, ma non che questo altro sia superabile in modo definitivo, perché l'altro ci sarà sempre. Ora, questo superamento dell'altro è violenza quando io lo conosco, dicevo prima, in modo domatico, altrimenti il superamento dell'altro significa anche autentica trascendenza, no? Cioè, allora direi, super il piano dell'altro come ciò che non è definibile e quindi come piano del mistero. Questo è il rapporto tra legge e Vangelo. Il Vangelo è superare il piano della legge, ma non superare in modo definitivo, perché ogni legge è un'ipotesi. Qualsiasi legge è un'ipotesi, non puoi dire Kant o non puoi dire prima praticamente o Protagora, ogni legge è un'ipotesi, non per distruggere ma per vedere il piano di trasparenza della legge. Il terreno è solo della pace, quindi è solo dialettico in questo piano di trasparenza. In questo piano di trasparenza mi porta sempre di fronte al piano del mistero come un essere aperto a. Quando io sono essere aperto a e quindi vedo la finitudine, perciò sono già in una posizione di, chiamiamo tra virgolette, pace. Se io invece non ho questa apertura A, sono in una posizione di violenza e quindi di guerra, a prescindere da qualsiasi soggetto io parli. Direi, non so, questo scusami, sono i filosofi sublimano talmente i nostri dibattiti che ci avvertono che anche a noi oggi non dobbiamo assolutizzare il progetto che stiamo elaborando, perché ci può essere violenza anche nello stesso proporre in maniera impositiva un progetto. Mi pare, inserendomi in questi discorsi, che sia l'umanismo antropologico ad oltranza, in cui l'uomo è visto veramente come il possessore della verità, non come colui che è posseduto dalla verità, ma come colui che possiede integralmente la verità filosofica, concettuale, o anche la verità di fede, sia anche il pessimismo antropologico, quello dell'homo homini lupus, dell'homo famelicus, coincidono ambedue nella perdita della pace, ambedue portano alla perdita della pace. L'ottimismo antropologico del possessore integrale della verità è portato ad eliminare il negatore della verità, colui che secondo lui non possiede la verità ma ne è nemico e la mette in pericolo e conseguentemente va spento, ecco la crociata. E anche il pessimismo antropologico, vedendo nell'altro l'uomo famelico, colui che impugna l'arma, dice con ingenuità, vero, facendo l'agnello, che l'arma non la userà mai se non in caso di pericolo, però il pessimismo antropologico mi porta a pensare che l'altro il primo colpo lo spara, certamente, allora io penso che è meglio sopprimerlo in partenza, prima ancora che usi l'arma, ed ecco quindi di nuovo la perdita della pace e la guerra come punta di un iceberg, no? A cui sono sottese tutte le altre guerre, soprattutto a livello di rapporti di lavoro. Allora, la concezione cristiana supera l'ottimismo e il pessimismo. Si può recuperare, domando, l'homo simul justus et peccator di Lutero? Ecco, l'uomo riconciliato, sì, da Cristo, dal perdono di Cristo, ma che tuttavia mantiene ancora potenzialità di peccato. Ecco, però io penso che un homo simul justus et peccator, visto appunto nel clima della riconciliazione e del perdono di Cristo, possa diventare, attraverso un'educazione alla pace, superando culture di guerra, etnocentriche, eurocentriche ed anche ecclesiocentriche, no? Possa diventare protagonista di pace. Ecco, a questo mi conforta non un'utopia, ma ecco, non so se la mia interpretazione è corretta, dei cavalli dell'Apocalisse, è vero? C'è il cavallo della fame, c'è il cavallo della peste, c'è però anche un cavallo bianco che cavalca la storia. Lo so che alcuni ci vedono un po' un'allusione ai cavalli dei parti, però io potrei vederci anche il cavallo bianco cavalcato dalla forza messianica che attraversa la storia, che passa attraverso la storia e dà quella forza non deludente alla mia speranza cristiana. Sì, una parola di risposta. Gambin. E dopo diamo la parola a Don Paolo perché così conclude. Forza, allora, chi è Gambin? Mi sono ritrovato, adesso ci avviciniamo al problema del mezzogiorno della risposta. Sì. Del mezzogiorno in Italia. Astronomico. Qui c'è tra noi peraltro chi a suo tempo per rivendicare praticamente dei diritti facendo una scelta da parte, ha fatto anche lo sciopero della TAN. Io direi che nella nostra conversazione, nella nostra riflessione, c'è ancora, penso io, un peccato, cioè quello dell'idolatria dei principi e degli universali. Io nel Medioevo non esistevo, però so che si discuteva sugli universali ante. Il fatto del in, cioè l'universale che si concretizza, che si storicizza, che si sigua, e penso che ci aiuterebbe molto, in maniera molto vivace, molto efficace, nel portare a terra, nel atterrare i nostri discorsi. Auschwitz è un nome storico. Dopo Auschwitz si è detto che non è possibile, scrivere una poesia. Perché Auschwitz ha segnato il timbro, il sigillo, l'autentico del falso ideologico. L'ideologia è arrivata al massimo. E proprio ad Auschwitz, c'è stato un certo tizio tra i mille delegati del Lager, che si chiamava Franco, e ha maturato questa tesi dietro l'esperienza del dolore. Ha detto così: proprio notando la reazione dei superstiti, mi sono accorto che sono sopravvissuti soltanto coloro che hanno saputo trovare il significato della situazione che si trovava. Gli altri sono morti anche se non sono passati attraverso il cammino. Allora bene, l'importante è recuperare l'uomo come luogo di significati e come sforzo per cercare il significato, ma questo significato che si chiama poi libertà, giustizia o pace, non è mai cantato in aria e non è neanche relegato nell'umanità in generale, in universale. Si trova sempre in situazione, e se è in situazione, lì bisogna che intervenga un atto preciso di scelta, di parte, non il tutto. La parte ha un valore storico efficace. Quindi scegliere un metodo può essere limitato, scegliere una parte e scegliere un limite, però non c'è altra possibilità per l'uomo. Scegliere tutto per l'uomo è pazzesco, è assurdo, è una riduzione divina. È una specie di dislocarsi di fronte al principio. E contro la rete mafiosa creata dalle grandi potenze, mafia, cosa nostra, tutto il mondo è nostro, com'è che i piccoli stati, ad esempio l'America Latina, possono difendersi? In che maniera possono resistere? I tentativi che vengono fatti per dire no a questa mafia organizzata politicamente a livello universale. E allora mi trovo sempre in difficoltà e vorrei avere una motivazione. Scegliere l'uomo è una bella frase che consente anche la non scelta dell'uomo o qualsiasi scelta contro l'uomo. E quando il Papa si trova davanti a un altro cristiano che è cardinale e ha fatto una scelta di un metodo, di una parte, e io non so, abbiamo due cristiani di fronte, due metodi, due modi di parlare, uno universale, uno particolare, uno nella astoricità del principio e l'altro nella storicità di una situazione. E penso, io vorrei qua chiedere aiuto a lui, perché per spiegare come la Chiesa ufficiale, la Chiesa che investe la storia con la sua potenza organizzata, con la sua presenza organizzata, invochi sempre grandissima prudenza e richiami all'ordine coloro che scelgono una parte. Invece da lì. Scopo, finito. Non è incaricato Micoli adesso di prepararci il pranzo con più serenità. Dopo questi pugni ci sarà anche il pomeriggio con i moralisti in primo piano. Allora tu brevemente. Molto brevemente. Anche tu e Binger, no? Io credevo che fosse un'alternativa. Prova ad essere conciso. Padre Piero. Chi è che ha fatto Gandhi? Prima, qui. Voglio configurare per lei, dopo vedere se fa qualcosa, una situazione di pace. Non ne do la definizione. A me penso, a me sembrerebbe configurarsi assolutamente così. È una situazione politico-sociale che si sviluppa organicamente, no? Collegato, quindi è una situazione politico-sociale in cui siano ridotte al minimo le forze dei singoli e del gruppo impiegate per la difesa, in cui siano annullate le forze impiegate per l'offesa, una situazione in cui siano dilatate al massimo le forze destinate a promuovere la collaborazione a livello interno e internazionale. Se questa è una possibile situazione, no? Di pace, allora mi viene da fare una domanda direttamente al professor Vicoli, ma a noi stessi. In che misura il cambiamento che mi trova abbastanza consenzioso tra il mondo moderno e il mondo contemporaneo trova una variabile determinante nella dimensione industriale della nostra cultura, che sta diventando planetaria, il che vuol dire, se intendo, in che misura la scienza applicata, la tecnica, diventa una variabile per passare da una società idealmente quella situazione di prima, centrata sulla categoria di ordine, a una società centrata sulla categoria di cambiamento. Fattore continuamente destabilizzante per la situazione di pace, per un certo aspetto, quale noi sogneremo. Allora arrivo alla terza notazione, la presa di posizione politica. E qui non mi illustro per niente questo punto, perché mi trovo d'accordo con quanto accennava Candini. Concluderei. Vivere insieme vuol dire trovarsi situati in senso anche spaziale. E allora, come dicevo in partenza, per parlare di qui noi abbiamo dovuto attendere per giungere verso un rapporto centrale. Il centro è laggiù. La comunicazione è determinata spazialmente da questo, non c'è buona o cattiva volontà, c'è posizione e ruolo. Dicevo, scherzando, che una persona qui vicina per essere all'estrema periferia e trovarsi al centro ha dovuto prendersi un suo strumento di lavoro e centrarsi. Ecco allora, la ricerca della presa di posizione del progetto politico, della strategia politica, ha bisogno anche di socioanalisi, se no effettivamente le riflessioni rischiano di essere abbastanza gradite e gradevoli, ma decisamente illusorie e soprattutto un po' mistificanti. Tu? Prego. Mastificanti, ha detto? Mastificanti. Vuoi dire qualcosa? Niente. Allora concludiamo questa mattinata, perché nel processo da qui alla sede avremo modo di discutere privatamente tra di noi, perché una parte integrante del nostro convegno è questa, di elaborare dialoghi bilaterali e non solo multilaterali. Una parte, immagino che già nei prossimi mesi e questo realisticamente afferra l'uomo per il nodo della cravatta. Magari ci siamo messi sulla tavola.